Ebbene sì. Hai aperto il microfono finalmente? Sì, l'ho aperto. Volevi zittirmi, di la verità. Volevi zittirla? Care ascoltatrici, cari ascoltatori, questa è Zona Rossa. Madonna. Che annunciatrice. Ma c'è una novità. Dici. Le ribelli se ne sono impossessate. Con la musica sotto non è male la risata, rende bene. In realtà questo stacchetto l'abbiamo già fatto in tua assenza e volevamo fare finta che tu fossi stato... Sì, ci ascoltavano zero persone e non avevo neanche registrato, quindi ha pensato di rifarlo perché... Grazie mille. Almeno, va bene. Perché siccome c'è la gara, no? Noi certo. Poverini... No, ma non c'è gara, è questo il punto, che proprio non c'è non gara. C'è gara, hanno non già esiste vinto, gara. Lorenzo, hanno tanto, già vinto. Tanto lo so che voi non ascoltate le ribelli, lo so che non le ascoltate. Ancora peggio, domenica prossima entreremo a gamba tesa e inizieremo a possessarci i microfoni. E l'ha detto, oddio, oddio. Guarda, sono solo cazzi vostri. Mamma mia. Potremmo provare, potremmo provare. Dai. Vi aspetto, ma volevo dire appunto che domenica c'è stata una puntata, non so se lo sapevate, ma una puntata delle ribelli veramente un po' fuori dal comune. Diciamo la più bella perché prendeva spunto da uno dei programmi più belli. Abbiamo copiato, l'abbiamo detto 300 miliardi di volte, Zona Rossa, le telefonate che fate. Peccato che vi è venuto bene, quindi non ha funzionato. No, infatti, una differenza genetica è importante. Ma che... No, che genetica, qui è stile, differenza di qualità. Intelletto. Vedi, è lì l'errore. No. Intelletto e Zona Rossa non funzionano. Beh, oddio, voi chiamate voi ci provate, però non è farina del vostro sacco. Appunto. Noi dobbiamo è per questo che io vi lancio questa sfida. Sono qua oggi c'è una sfida. Lancio la sfida perché non faccio le gare, perché appunto non c'è gara con le ribelli che abbiamo assolutamente fior fiori di ascolti. La differenza antropologica rilevante. Ma uno, allora, tutte le persone che abbiamo chiamato domenica erano già state importunate da voi, certo, ed erano ben felici invece di trovarsi al telefono con noi. Ma voi siete state per noi un test, perché è quello che vogliamo, e voi siete semplicemente le cavie con cui abbiamo appurato che diamo fastidio. Noi dirigiamo il gusto, ma noi ribelli o gli ascoltatori? Le ribelli. Ah, noi ribelli. Sì. Allora, il punto è questo, vedi, nonostante la vostra deficienza... Come fai a dire nonostante? È difficile. Vai, ti ascolto. Nonostante la... Trasferisco di qua perché non si sente, dirà. No, aspetta. Era voluto. No, pensa. Guarda chi c'è al mixer e vabbè. Attenzione, no, parole fortissime. Attenzione, no, ma tieni queste pure, non ti preoccupare. Ma no, ma che parole fortissime. Qua c'è del... Vabbè, e quindi in realtà noi siamo riusciti a dargli un'idea, una fantastica cosa meravigliosa. Voi l'avete copiata perché evidentemente a corto di idee, ma siete comunque le migliori. Non Guglielmo, c'è lo sappiamo che ti piace il suono della tua voce. Fammi finire una cazzo di frase. Prego. Allora, la sfida è questa. Okay. Le ribelli, nonostante la vostra deficienza, sono riuscite a estrapolare qualcosa di positivo dal vostro programma. Perché scricchiate? Grazie. Quindi avete trovato qualcosa di intelligente in noi, e noi che pensavamo di non averlo. Ecco. E noi che sappiamo perché di non averlo. E qui perché si parte da un dato di umiltà. Certo. Ragazzi. Ma noi facciamo i bagni tutti i giorni di umiltà. Lo so, vi vedo proprio... Bagnati. umidi, in umidità. A proposito di questo, intanto, allora... Certo. Scusa. Prego. Con gentilezza, però. Sì? Con un mouse? Dica di cosa ha bisogno. No, piano. Volevo, visto che siete tutti bagnati di umiltà, di quella roba lì. Cerca la canzone All Wet, per favore, che è molto bella. All Wet. Ah, grazie, le DJ. Scegli anche la musica adesso. Sì, oggi ho deciso che proprio... Ma questa cosa non so se l'accetto. Attenzione. Non so se c'è senso. No, come tappeto. Ah, sai mettere i tappeti? Metto tipo così, a questa altezza qua? No, un po' più giù. Più giù. Ancora, scusami, così. Ecco. Ora sì che sono bagnato. Adesso sì. Ora sei orgoglioso di me, maestro? Vedi, alla fine la riconoscenza ma arriva. Certo, ma io guarda che la riconoscenza arriva. Comunque la sfida voleva essere questa. Attenzione. So che stiamo tediando i nostri miliardi di ascoltatori in questo momento. Ma ce la faremo. La sfida è: noi abbiamo copiato qualcosa da voi. Ma voi sapreste copiare qualcosa da noi? Ma infatti, se e stasera, reinterpretarlo in zona rossa? Stasera rimani a degnarci adesso, della tua presenza. Rimango poco che poi devo c'ho l'appuntamento la radio, online. La radio, come puoi sapere, si può anche ascoltare da casa o anche non Pieri, c'ho un appuntamento online. Niente, alla fine quando c'è zona rossa c'è sempre un impegno. Ma pensa un po'. Durante il podcast ti renderai conto che noi oggi andremo a chiedere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Ebbene sì. Gli chiederemo una cosa. Gli chiederemo che una cosa sulla falsa riga delle Rivelli di domenica. Noi gli chiederemo noi gli chiederemo qual è stata il due di picche più assurdo che hanno ricevuto. Vabbè, ma siete geniali. Delle Rivelli, sì, cioè, però ti rendi... la scia delle Rivelli, ma zona rossa, ma zona rossa. No, ecco, zona Rivelli. Non avete capito niente della puntata di domenica. Le Rivelli rossa. Le Rivelli rossa. Vergognati. Ma solo tu vergognati, io posso anche non vergognarmi. D'altronde sta parlando solo con te, per cui ci sta effettivamente. È perché lui ha detto che non l'ha ascoltata. Noi lo sappiamo che tu l'hai ascoltata. Ma allora come fanno a sapere tutte queste cose? Perché le Rivelli arrivano dappertutto. Ah, ok. No, vergognati. Vergognati. Lorenzo, vergognati. Cattivo. No, e il punto è questo, cioè la nostra prima domanda era una domanda un po' così per sciogliere il ghiaccio e ci siamo riusciti a sciogliere il ghiaccio. Qual era la domanda? Ripeti. Era se una persona ti piace, come approcci? Poi le domande, diciamo, andavano su un altro tipo. Ma sai che forse ho capito solo adesso perché tu hai proposto di fare questa domanda? Proprio perché lei le sta ripetendo. Sì, comunque io fossi in te sì, alla mia destra, cosa farei? Cosa mi sentirei un po' offeso perché lui ha condiviso con me questa idea per oggi già ieri. Ma tu invece ne sei completamente all'oscuro. Ma l'ha stata tre giorni. Aspetta, fate che purtroppo è così. Ma va bene lo stesso. Vabbè, ma non sta capendo. Ma vi parlate voi due? Ma sì, ma non ci capiamo perché è zona rossa. Ma come le vostre puntate? Ma a caso, guarda, tendenzialmente. In un modo che se lo vedi ti viene mal di testa. Esatto. No, bene. Vai avanti. No, comunque avete notato il tappeto che è carino? Sì, molto. Sono fradicio. Molto, senti tantissimo. Tant'è vero che a questo punto io farei una cosa molto simpatica. Rimetterei la sigla e facciamo ripartire zona rossa. È stato fantastico, grazie mille. Possiamo andare? Non possiamo andare. Adesso rimango qua, guarda. No, l'abbiamo vinta! Abbiamo fatto un strano gioco con le cuffie. Insomma, la sigla sta piacendo perché abbiamo deciso di mandarla per ben due volte. Grazie Giulia per il disturbo. A noi piacciono i disturbi. Radio ZM 18:42. Ci scusiamo per il ritardo, ma in realtà ritardo no, perché ci piacciono le incursioni in questo modo. Insomma, noi viviamo di incursioni, siamo delle incursioni. E quindi si parte. Ho sbagliato io a dirti qual era la cosa delle cuffie, perché sono un cretino. Sentito che si abbassava la musica, ma Radio ZM e anche tecnicismi in diretta. Il bello della quindi... diretta. Come va la coda alle poste? Minuti e sono a circa 15 centimetri dall'entrata. da quanto tempo sei lì? Scusa che abbiamo perso il segnale. Tipo un'ora e mezza, due. Vai così. Mamma mia, ma non puoi farle al computer certe cose? Cosa devi fare? Devi spedire? Devo spedire le stampe. Allora niente, devi essere lì per forza. Ma quindi carissimo, come c'è? Nel senso, allora, punto primo, c'è qui con noi un'altra persona, i microfoni zona rossa. Ciao Fra, sono la Mercu. Ehi là. Ciao. Ma senti come fai brillante subito. Sì, ma sì, ascoltami, sì. Ma quindi anche tu sei parte del gruppo di Zona Rossa? Cioè, sei fisso? Volente o nolente? Non c'è scelta! Non c'è scelta, no? Appunto, non è la risposta. No. Non è... Sono stato cooptato, credo. Bravo, del giusto! Contro la tua volontà? Modalità spartana. Sì. Ah, spartana. Spartani. Va bene, però sei felice. Sì. Sì, non so se è il sentimento che descrive meglio la questione, però ok. Facciamo finta di, dai. Sì, diciamo di sì. Ai microfoni diciamo di sì. Va bene, allora l'abbiamo appena deciso in tre, nella telepatia che contraddistingue chiunque partecipa a questa trasmissione, che ti richiameremo ogni mezz'ora per un aggiornamento costante dalle poste di via Posillipo. Mettiamo il timer. Di via Capitano Ottobono. A sto giro dobbiamo fare anche come l'ingresso dell'inferno. Esatto. Francesco, dobbiamo fare è passato da qui. Dobbiamo fare i numeri perché l'ultima puntata la parte tua non c'era, è venuta tagliata. Come mai? No. Quindi perché dobbiamo fare i numeri. Si è tolto il rec, non capiamo, e quindi c'è soltanto le ultime tre battute. Oggi dobbiamo tirarti un po' scemo. Dobbiamo ripetere tutto quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Ma no, non è vero, diciamoli invece cos'è oggi, cosa succede oggi a Zona Rossa, no? Sì, adesso glielo anticipiamo. Ma certo. Succedono anche delle cose a Zona Rossa di solito. Ma assolutamente. Solo perché ci sono io, Fra. Esatto. Fra un po' le farai succedere anche tu. E non te ne renderai conto. Esatto, quindi partiamo dalla prima cosa che fai accadere tu. Tu sei lì per un motivo, dato che abbiamo perso la registrazione settimana scorsa. Tu sei lì perché stai cercando disperatamente di fare una cosa. Che cosa stai cercando di fare, Francesco? Non lo so, penso farmi del male. Ma un campanino prima di entrare alle poste l'hai bevuto alle 4:30 del pomeriggio? Guarda, ho bevuto due belle birre medie in un bar di compagni. Fantastico, le birre della Lidl. Ma vabbè, quindi tu hai un libro e quindi per questo libro stai cercando di spedire qualcosa. Raccontaci qualcosa del tuo struggimento amministrativo. No, non sto spedendo nessun libro perché non sono ancora arrivati, arrivano venerdì. Che libro? Narraci. Il libro con le grafiche dell'NCLN. Certo. E vabbè, adesso ha senso stare qua a raccontare tutto? No, non ha senso. Dipende. La presentazione di domenica. Come te la senti? Ma la trasmissione di domenica non c'è la tua parte, Francesco. È saltato il rec. Devi ripetere. Molto bene. Vabbè, molto bene. Vabbè. Ascolta. Ti lasciamo del tempo per pensarci, esatto, se vuoi, dai. Ti lasciamo del tempo. Tanto il silenzio in radio mica fa male, non è che cade nel vuoto, ma figurati. No, sto rendendo partecipi tipo le altre 90 persone che sono in fila dietro di me a questa conversazione. Ma è così che ci piace, ma non hai messo il viva voce, scusa? Esatto. Passacele. Esatto, ma no, Francesco, ti prego passaci il telefono. È troppo zona rossa. È un po' anti-covid. No, è un po' troppo. Vedi, alla fine sei anche tu un moderato. È così. Hai scelto la via della pace. Durerà poco questa cosa. Stai dando del democristiano? Sì. Io non risponderei più al telefono. Io passerei il telefono a un estraneo a caso, subito. O all'inserviente delle poste direttamente. A un bellissimo pulsante arancio-verde che sta per dire che sto per entrare ufficialmente in ufficio postale. Ci passi l'operatrice delle poste. No. Ha una telefonata, tenga. Allora, facciamo così. Lui praticamente è alle poste e non può parlare liberamente perché c'è gente che ascolta. Quindi d'ora in avanti facciamo le domande solo con cui può rispondere sì o no. Perfetto. Tipo, il tuo libro parla di antifascismo? Sì. Okay, ci siamo. Il tuo libro l'hai scritto tu in collaborazione con altri? No. All'interno del tuo libro ci sono delle grafiche? Sì. Fantastico, perfetto. Fantastico. Ti chiamiamo dopo, non so più cosa fare. Giulia, ti mettete una domanda. Esce il 13-12? Olè, così, dai, dai, andiamo avanti allora, insistiamo. Non è una data scelta a caso. Indovina cosa? non lo so, è difficilissimo fare così, va bene, ti chiamiamo più avanti e poi ci passi l'inserimento delle poste. Dai, va bene, tipo tra 20 minuti e mezz'ora. Dai, saremo qua, saremo pronti. Ci siamo. A dopo. Ciao. Dai. Insomma, una telefonata veramente intensa, devo dire, però poteva passarci qualcuno, sarebbe stata ancora più intensa. Ringraziamo Giulia per il supporto emotivo, tecnico. Sì, ma non gli avete fatto la domanda principale della giornata. Ma noi ci scaldiamo con calma, tu, cioè, salti tutti i preliminari. Ma dov'è Cigo, tra l'altro? Ma, una domanda per piano, con calma. Lui. Ma perché? Zona Rossa, soprattutto? Come si fa Zona Rossa? Zona Rossa si fa così, quando le telefonate partono, lui è il nostro cuoco, sta team, preparando il telefono. E ha la team. C'è della gente che sta facendo delle fantastiche marmellate giù di sotto. C'è da dire che lunedì dopo l'assemblea c'è stato questo miracolo, ovvero dalla cucina è uscito del cibo caldo, fumante. Meraviglioso. E io non ho ancora capito com'è possibile questa cosa. È incredibile, la nostra cucina fa anche cose buone quando non ci siamo noi. Quando c'è dell'altra noi. Gente che sa farlo, funziona bene. Vediamo se Fantastico. Prende la linea, questa persona ovviamente sarà in una... Ah, è un po' che non lo sento, esatto. Dai, ci sta, sì, ci sì, sta. Sì. Però non suona, cosa sarà mai successo? Ma no, adesso suona. Tanto adesso ha preso l'abitudine a rispondermi, maledetto, perché per vari motivi. Allora rispondo io al telefono, così. Vai. Non capisce niente. Prego. Però il silenzio. Tirala in mezzo, tirala in mezzo. Bisogna sempre dire qualcosa mentre il telefono suona. Questa cosa, per esempio, ai ribelli non capita spesso che si comprenda. E poi sono io a togliere tutti. Oi, Fra. Ciao. No. Già. Ma cosa? Gulli. Ti dirò di più, ho dei campioni insieme a me, ti metto i voci con Norberto. Oh mio Dio! Attenzione! Però hai parlato... Arrivo il Cicchi, non fare il programma alla radio. Buonasera. Buonasera, magnifico. Ma no, ma ascolta, ma dove sei? Perché non sei qua? E comunque non sono Gulli, cioè, ma come cazzo state? Cioè... Siamo a casa della Cochi, noi quattro. Oh santo Dio! Stanziati. Cocchi, hai fatto la storia Instagram per Zona Rossa, Cocchi? Costanza? Cocchi, la storia Instagram. Ah, vabbè, ma che telefono? È così. Figa, aspetta, è così. Che sto scappando. Cocchi è scappato. Brava, brava. Uguale a Cigo, siete fatti con la stessa pasta, veramente. Incredibile. Pusillanimi tutti e due. Vai. Hai fatto la storia Instagram per Zona Rossa, Cocchi? No, ma è stato un... Sì. Bello, è stato divertentissimo. Dillo Costanza, perché non è le ribelli e quindi non ti senti così. No, perché quando partono le ribelli Costanza si emoziona sui social. Fa pure le storie personali. Fa le storie in cui spiega come cliccare sulla radio nel Mamma sito. Mia, qua, quanto ti voglio bene. Allora, fermi tutti, calma. Dupe, dove sei? Sono qua, sto provando a far parlare Norberto, ma non parla. Va bene così, a posto, lascialo lì che tanto è meglio così. Ma allora, descrivici un attimo qual è la situazione intorno a te, perché per te abbiamo una domanda importante. Molto importante. Anche per Devo le persone descrivere, che sono vieni Cigo. Allora, devi dirmi cosa c'è. Sei tu, Cigo, Norbi e la Costa. C'è pure lo stagista, bravo. Sì, ma infatti, ma Cigo, perché sei lì e non sei a Zona Rossa? Oggi ho avuto un contatto. Doveva studiare. Maledetto. Ma Cigo, ma io sono sconvolta. No, non è vero, non più. Fai schifo. Comunque da quando ci hai abbandonato, maledetto stagista, abbiamo fatto una joint venture con le ribelli, per cui da ora in avanti dovrai fare lo stagista anche per le ribelli. Oddio, no. Attenzione. Cosa? Per le ribelli sono lo stagista. Sei lo stragista per le ribelli. Vai a fare le uccidi per commissione delle ribelli. Uccide per commissione vostra. Voi gli dite chi uccidere, lui vi uccide. Bello. Compagna, vi sentiamo malissimo però. Siamo fatti così. È un programma strano in cui non ci si sente una mazza. Detto questo, abbiamo una domanda per Dupe. Esatto, la domanda gliela farà Giulia. Vai Dupe, ascolta. No, ragazzi e ragazze, visto che immagino sappiate cos'è successo alla puntata delle ribelli domenica, no? Lo sapete? Sì, lo sanno. certo. Sì, va bene. Ok, questa è la continuazione. Insomma, ci rimpalliamo un po' le cose da dire e da fare. Quindi la domanda di oggi è: Cigo, sto facendo le tue veci, pensa un po' a te come siamo messi. E, la dura vita degli stagisti. Dello stagisto. Il 2 di picche peggiore. No, quando hai preso 2 di picche? Quando hai preso 2 di picche, dupe? Vogliamo saperlo da dupe, però. Come ti sei sentito? Come ti sei sentito? Il tuo peggiore 2 di picche. Il tuo peggiore 2 di picche. Ecco, non vediamo l'ora di sapere. Quando ho preso 2 di picche? Lei parla però, perché radio si parla continuamente, non devi stare zitto. Bravo stagista, bravo. L'ho preso nel lontano 2017. Attenzione! Beh, sono 3 anni fa. Lontano. Nel lontano 2017 il Covid non c'era, il mondo era meraviglioso. Da Cigo, perché Cigo sì. Cosa è successo con Cigo? Cigo mi disse di no. Maledetto. Cigo, come hai potuto? Confermo tutto. Che coraggio comunque. E tra l'altro, sì, a quanto pare stiamo rimediando a 2 di picche del lontano 2017, perché Cigo stasera mi ha detto di sì. Oh, oh, ma c'è dell'amore. Ma quindi tutti questi scoop in una puntata sola, io non ce la faccio. Quindi, quindi siamo un po' di troppo noi in questo momento. Ma noi siamo sempre di troppo. Diciamo, io no, mai. È un po' troppo, ma quasi, dai. Ok, ok, va bene. Allora, possiamo dirvi semplicemente che tra poco metteremo in vostro nome un nostro onore, una canzone reggae, Skinhead, che sappiamo che voi apprezzate particolarmente. Vi ricordiamo di accendere la radio comunque mentre fate le vostre cose, cosacce, mangiate, andate in bagno, fate la doccia, tutte le cose che servono a sviluppare un grande amore, e ascoltatevi la radio e le cose che diciamo, e soprattutto che dice la nostra nuova socia qui in special guest. Socia adesso non esageriamo. Dalle ribelli, Giulia. Se lo deve guadagnare. Cioè, cosa devo dire? Il nome a socia. Non lo so. Lorenzo farà partire una canzone a caso e ringrazieremo. Ciao Dupe, grazie. Ciao Dupe, grazie mille. Ciao raga. Cigo, ti amo. Cigo, ciao Cigo. Ciao Cocchi. Ciao. Ciao, ciao. Allora, io in questo momento entrerò... C'è troppa frenesia. Ma la zona rossa è così. È tipo una botta. No, non ho detto questo. Allora, io adesso entrerò a gamba tesa, visto che oggi entrano tutti a gamba tesa. Ho deciso che zona rossa avrà una piccola rubrica Lorenzo. Si chiama proprio così, rubrica Lorenzo. In cui io e la mia grandissima voglia di parlare di cose intelligenti non ce la facciamo più e non ci tratteniamo. Ha sempre quindi... fatto questa cosa. Lui ha sempre sabotato questo programma. Esatto, esatto, esatto. Ora mi prendo 5 minuti, ma neanche in realtà, per raccontarvi una cosa molto bella, ovvero che il 2020 è un anno molto importante, come ogni anno in realtà, in cui io festeggio, perché 38 anni fa in Giappone veniva messo nelle librerie, nelle fumetterie, il primo albo di Akira. Akira è un manga di Katsujiro Otomo, molto molto importante. Ho capito adesso il qui pro quo con l'altro redattore riguardo l'uscita, alla data di uscita. Esatto, 38 anni fa è stato appunto stampata il primo capitolo, perché c'era stata una divisione in capitoli, poi ci sono state varie edizioni, quella che conosciamo noi in Italia ne conta 13 volumi in cui era chiusa tutta la storia, però le nuove edizioni che usciranno, ce n'è prevista una nel 2021 che conterà 6 volumi. Sono in 40 questo... anni dall'uscita o 30? 38. Quindi 2 anni ancora saranno 40. Esatto. Ma sono delle riedizioni o sono inediti? No, sono delle riedizioni. Ah. E viene stampata esattamente allo stesso modo, forse vengono migliorati un po' i colori, rimane comunque il bianco e nero, tranne le prime 5-6 tavolozze che inizia ogni albo, che sono colorate. In questo caso il contributo che mi sento di dare non è strettamente legato al manga, che vi consiglio di andare a cercare e di andare a leggere, ovviamente è molto più ricco di quello che è il film che è uscito tot anni dopo, quindi siamo nel 1988 e abbiamo questa pellicola che è stata coprodotta da qualcosa come 15-16 case di produzione diverse, sono andate in bancarotta per far uscire questo film. Quella che vi presentiamo in questa puntata sono, non tutte perché sono tante, poi magari le mettiamo durante l'auto DJ della fine, quello che vi presentiamo è la colonna sonora del film, che a parer mio è un'opera magistrale. Ma quindi può risultare anche un po' pesante per certi gusti, ma Zona Rossa è pesante, ovvio, quindi vabbè. Siamo pesanti. Vabbè, ma che bello. Ma tu, quindi è stato un momento bellissimo. Perché parlo grazie. Io. È stato un momento come quello dei ribelli. La rubrica non è finita. Mia mamma sarà stata felicissima, però non vi ascolta. No. Capita. Va bene, io vi saluto, ciao. Ciao, è ciao, stato ciao. Bellissimo proprio, un'esperienza indimenticabile. Ora non saremo più quelli di esatto. prima. Basta. Vero, Siamo sporchi. Ciao. Ciao, ciao. Guglielmo può riappropriarsi di un microfono decente finalmente. Esatto. anche chissà, forse era meglio se la gente non mi sentisse bene, non mi sentisse bene o tutte quelle cose lì. Ma quindi tu mi sei per l'anime, cioè mi sei per il manga, non per l'anime, non per il film. No, no, no, in realtà le opere sono strettamente correlate, nel senso che se tu guardi il film e leggi l'anime noterai che ci sono delle diversità, ma non sono delle diversità volute o nel senso che è cambiato l'autore o altro. L'autore è sempre lo stesso, il regista, lui fa il regista del film come ha scritto il manga. L'unica cosa è che il manga, avendo più volumi, avendo la possibilità di espandersi, la narrazione è più ampia. Nel film è un po' più ridotta. Io personalmente il mio primo impatto è stato di entrambi, perché a casa mia c'era sia il film che i manga, certo, di fianco. Quindi ringrazio Stefano, mio fratello, che mi ha addentrato in questo mondo bellissimo. Thank you, bro. Che è arrivato a farmi fare pure un tatuaggio in onore di questo manga. Oh mio Dio! Sì. Però se dovessi scegliere sarei per entrambi, perché sono entrambi due opere molto molto belle, che differiscono ma strettamente correlate per tutta la narrazione che c'è dietro. Comunque tu non ci crederai, ma dato che io le cose che dici talvolta ci tengo anche, attenzione, mi sono pensato anche delle cose intelligenti da dire riguardo ad Akira, perché è un film che mi ha spaccato il cervello un po', anche è se vero, non è uno dei miei prefe. Però comunque penso che ci siano dei contenuti veramente molto importanti, oltre che delle scene veramente fantastiche, che sono, secondo me, una in particolare, quella che ho in mente, la dico subito via, la scena in cui lui combatte l'ormai mostro, mostrificato Akira, perché poi tra l'altro noi siamo abituati a pensare che Akira sia il nome del protagonista, no, che in realtà non è vero, cioè il Akira con il personaggio che si avvicina alla motocicletta, non è lui Akira, lui ha un altro nome che non mi ricordo. Kaneda. I due protagonisti sono Kaneda e Tetsuo, che fanno parte di una banda di motociclisti. Esatto, Akira è invece l'amico che per vari motivi si sente rifiutato, quindi decide di far parte di un programma, no, se no, non no, sbaglio, no. Akira è un bambino, e questi bambini, è uno di tanti bambini di un gruppo, questi sono bambini che, non so se conoscete la storia dei bambini cobalto, o non mi ricordo se era cobalto o un altro nome, insomma c'è stato le mitologie anche giapponesi, la storia di questi bambini che hanno delle potenze psichiche molto avanzate. E siamo agli albori della terza guerra mondiale. La terza guerra mondiale in realtà scoppia in questo mondo. Quindi c'è il mio telefono che prende vita sua. Vabbè, quindi... Proprio perché un team di scienziati che stava studiando questi bambini e stava aumentando le capacità cerebrali di questi bambini, forzandole con dei macchinari, uno gli sfugge, diventa troppo, troppo potente, e questo bambino appunto è Akira. L'incontro tra questa banda di motociclisti e questo gruppo di bambini, che ovviamente sono segregati dal governo e dai militari. Bambini dato inquietantissimi perché sono invecchiati, quindi hanno una faccia da sessantenni, sì, il corpo, esatto, di bambini. Hanno il corpo di bambini e il viso di sessantenni, tranne Akira. E questa cosa secondo me ricalca qualche tipo di strano forma di roba, cioè come si dice, atavica, sì, per cui il bambino sì, anziano, sì, sì, il bambino sì, che vive al contrario. Comunque, assolutamente. Ci tengono, il nostro pubblico ci tiene a farci sapere che ci ascolta e ci ascolta con violenza, perché sì, ma che palle, Pica. No, attenzione. Ce l'hanno detto. Comunque la scena quasi al limite del grottesco era la scena dove lui, il protagonista Tetsuo, no, l'altro, Kaneda, scusami, cerca di sconfiggere, esatto, un Tetsuo che avendo accumulato anche lui il potere di questi bambini, ma non avendone le capacità psichiche, non riesce a controllarlo. Esatto. E il non controllo diventa fisico, diventa corporeo, quindi la potenza fa sì che il suo corpo si gonfi. Esatto, si gonfia all'infinito, anche sì, questa cosa molto atavica del fatto di inglobare, sì, le cose. Questo senso anche di affetto che gli è mancato, perché questo personaggio era un po' lo sfigatello del gruppo, che sì, quindi sì, subisce il bullismo degli altri, allora vorrebbe avere un contatto e quindi finisce per inglobare il mondo, disintegrandolo, eccetera. E c'è il protagonista Kaneda, a questo punto, che lo combatte con questo cannone laser con delle scomodissime batterie che si porta dietro, con questo sacchettone gigante, questa borsa pesantissima con le batterie. E non lo so, ma ogni tanto mi fa quasi pensare che sia un po' una specie di spernacchio a quei film d'azione dove c'erano tutte queste super armi fighissime. In realtà sto disgraziato va in giro con questo cannone che spara una volta ogni quarto d'ora, tira ste fucilate laser che gli fanno pure male, però di fatto è sempre tutto sbilanciato da queste batterie enormi. E ricordiamo che il disgraziato in questione, Kaneda, ha 16 anni, perché sono dei ragazzini, sì, loro una sono gang di motociclisti. Questo richiama anche tantissimo quel tema molto importante che in Giappone è più che sentito, che è quello degli hikikomori. Gli hikikomori sono una categoria di ragazzini che vengono lasciati a sé, non hanno famiglia o molto spesso la famiglia è in un'altra regione, loro vivono in degli appartamenti molto piccoli, vanno a scuola perché sanno che devono andare a scuola, fanno tutto da soli, soli, si fanno da mangiare da soli, a volte sono seguiti da dei tutori, a volte no. In questo caso la banda di motociclisti appartiene a una delle categorie più emarginate di questi hikikomori, ovvero delinquenti, ma delinquenti veri, delinquenti che guidano motociclette che vanno a 300 all'ora, che si scontrano con le gang rivali dei clown, per esempio, esatto, che si ammazzano a vicenda. Biciclette, che c'è, cioè biciclette, è motociclette. Una scena molto importante è quella di la loro bravata, di quando incontrano uno dei bambini dell'esperimento, per cui Tetsuo, entrando in contatto con lui, acquisisce il potere. Gli altri, Tetsuo viene prelevato dall'esercito per essere portato via, per essere arruolato, no, per essere controllato, perché è entrato in contatto fisicamente con uno di questi bambini. Gli altri della banda tornano a casa e il giorno dopo si viene a sapere che cosa hanno combinato a scuola, e l'insegnante li ammazza di botte. Quindi siamo proprio al limite della vita degli hikikomori, che è questo ragazzino che vuole andare contro le regole sempre e comunque, che è anarchico nell'anima, che si droga, perché loro, c'è il tema della droga anche molto forte, prendono queste pastiglie di ecstasy. Ah, non l'avevo visto nel film. Prendono queste pastiglie di ecstasy che anche lì ricorrono in Tetsuo, perché lui le utilizza per contenere il potere che sta creando, sta nascendo in lui all'interno. Madonna, sì, che bomba. E le motociclette, il design delle motociclette, esatto, verrà poi ripreso, forse è stato ripreso, perché mi sa che è precedente da Tron. Vengono riprese da Tron, perché è già uscito Tron, ai tempi. Akira ha creato un immaginario incredibile. Considerate che in Giappone, quando è uscito, l'hanno soprannominato la febbre gialla. Oh, la Madonna. Sì. C'è stato un boom incredibile, soprattutto dopo l'uscita del film. Dimmi che Burroughs non ha scritto un libro che si chiama Febbre Gialla, se no domani lo leggi anche tu. Abbiamo già dato. Grazie. Fortuna che non abito più qua dietro. Meraviglioso. Abbiamo abbandonato la città della notte rossa perché non se ne poteva più. Ma l'ho ascoltato con piacere. Esatto. Aiutatemi a fermare Pica. Non so cosa fare. Chiara, aiutami tu. Minchia, mandiamo che strage. Minchia, che trasgre. Minchia, mandiamo una traccia. Mandiamo una traccia poi ne riparleremo. Potremmo chiamare le persone e chiedergli anche di Akira. Tipo, potrebbe. Ma quella volta che per una mancanza di affetto hai cercato di inglobare il mondo, com'è andata? Provo a nominare col mio giapponese squisito il nome del musicista che ha composto la colonna sonora. Geino Yamashiro Gumi. Madonna. Dopo chiameremo anche un'autentica giapponese e gli chiederemo qualcosa di Akira. Questa è la traccia Tetsuo, tutta per voi, Zona Rossa. A tra poco. siamo in un futuro distopico. Io di notte venivo qua a mettere questa musica, tipo d'estate. Esatto. E in futuro distopico c'era Lorenzo che veniva qua d'estate in mutande a mettere queste canzoncine qua. Ringraziamo tantissimo anche il ragazzo che ci ha portato anche quel bellissimo tappeto sonoro di musica reggae, skinhead. Ricordiamo il nome? Andrea. Grazie, che Andrea. Se ci sta ascoltando adesso magari mando un messaggino anche con il ricordo di ascoltarci, perché un giorno lui farà una trasmissione, anche se ancora lui non lo sa, lui farà una trasmissione su questa fantastica emittente radio a proposito della musica black music. Fantastico. Soul, R&B, reggae, skinhead reggae, qualsiasi cosa, northern soul, un sacco di cose belle. Intanto switchiamo l'auto DJ e torniamo su un Freedom Sound di Roland Alfonso and the Scatalites. Scatalites. Dobbiamo chiamare Mace e dirgli: ma senti, ma come si pronuncia questa? Scatalites. E invece no, stiamo chiamando qualcun altro. Andiamo a trovare un'unica nostra redattrice donna, perché anche noi vogliamo avere sempre del femminile insieme a noi, perché se sì, da soli sappiamo pochissimo. Giulia ci ha abbandonato. Esatto, pure... Anita non ci ha risposto tante volte, ma ora lo farà, anche se ci aveva detto che era impegnata. Noi la chiamiamo lo stesso per farla sentire in colpa. E esatto, poi veleggeremo altrove, perché mi sa che effettivamente non risponderà. Che curiosamente, se una persona ti dice non posso rispondere, poi non può rispondere. Se seguite la pagina Facebook avrete notato il bellissimo post che è uscito poco prima di andare in diretta, in cui c'è proprio scritto che abbiamo dei nuovi adepti e delle nuove adepte. Sì, che ve li presentiamo. Non è che proprio siano molto efficaci, eh? Ma questo è tipico, diciamo, zona, no? Rossa, tipico zona rossa. Sì. Il primo nuovo adepto è Francesco, l'avete sentito pochissimo fa. Ha già calcato i microfoni di Radio ZM durante... Che periodo era? Sbagliate volte, sì. Il 2 di ottobre, se non sbaglio, abbiamo fatto l'evento per la mostra. 3 di ottobre. Abbiamo fatto l'evento qua a ZAM della mostra, che è stato riuscitissimo, tra l'altro. E c'è stato un dibattito pazzesco sulla storia dei meme. C'era pure Vale a un certo punto. Come è finita malissimo. Quella puntata lì. Sì, c'è stato un podcast di 70 ore. Avevamo spostato la radio in sala. Sì, esatto, parlavamo un sacco di cose meravigliose. E non so, vogliamo chiamare della gente a casaccio? Chiamiamo della gente a casaccio. Chiamiamo lui soltanto perché abbiamo un debito d'onore. Nel senso che noi, Zona Rossa, ci scioglie il cervello così tanto che poi ci dimentichiamo di mandare i podcast delle altre trasmissioni. È vero, E dato che il tema di oggi era anche un po' fare crossover, oggi faremo crossover con Pillole di Ecologia. E ci viene spiegato che cosa ci sarà dopo. Esatto, ci racconteranno adesso anche lui, una persona seria. Pronto, dottor Cesana? Buonasera. Ma buonasera, carissimi, buonasera. Già pronto, meraviglioso, ci aspettava. Meraviglioso. Allora, come state? Ma come stai te? Non ci vediamo da un sacco, tutto bene? Hai ragione, sì, sto bene. Grandi novità, ho visto tutto che state bene. Facendo un bel po' di cose, eh? Hai visto? Che storia. Sì, con la 232 stai dicendo? Esattamente. Vai, racconta. Esatto. Ne abbiamo parlato, tra l'altro, allora, lunedì sera a To-Do List. Ne avete parlato, non ho sentito. Lunedì sera a To-Do List, il nuovo programma che racconta gli eventi della settimana. Ho visto il post, ho visto il post su Facebook, infatti grandissimi. Allora, ci sono due cose della 232 che stanno venendo fuori ora. Una grossa e una cagata. Vai. Diciamo. Quella grossa è la seconda stagione di Beccati. Esatto. Che cos'è Beccati? Beccati è una serie di video interviste fatte a dei personaggi della musica, i più vari, che possono essere rapper, producer, DJ, produttori, quello chi più ne ha più ne metta. Queste video interviste sono girate dentro il carcere minorile Beccaria. Fantastico. E sono condotte dai ragazzi che partecipano ai nostri laboratori. Che bello, che storia. Tutto questo sul canale, sì, YouTube. È una cosa figa. Tutto questo sul canale questo YouTube. Sul canale YouTube della 232, esatto. Ora vogliamo sapere la cagata. Ah, la cagata è che ogni mercoledì sera, tra l'altro barra caso oggi è proprio mercoledì, facciamo una diretta sul canale Instagram, sempre di 232, dove proponiamo degli esercizi di scrittura che facciamo durante i laboratori, cazzeggiamo un po', e insomma facciamo un po' di robe in diretta per tenere compagnia a chi ci segue e così. Ma che storia, ma scusami, a che ora avviene tutto questo? avviene dalle 9 alle 10. Cavolaccio, perché se siamo ancora in trasmissione sarebbe bello andare a vedere cosa propongono e farlo in diretta insieme agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Questo così. Monge sarebbe figo. È incredibile. No, potremmo fare un giorno una compresenza in diretta così. Beh, scoprire che siamo degli illiterati analfabeti, cosa che nel mio caso è ampiamente vera. E cioè, risaputo. Ma naturalmente. Si scopre niente di nuovo. Ma caro Stefano, stasera c'è un'altra cosa bellissima che succede stasera. Sì? Ovvero va in onda un'altra nuova bellissima puntata di Pillole di Ecologia. Attenzione, ci sono dei personaggi loschi che promettono tibi e minischi alla porta della radio. Vai, vieni a salutare, vieni a salutare. No, io oggi non ci sono in palestra. Ciao ragazzi, ciao, scusate. Chi è, chi è? Il nostro fantastico coach è arrivato. Fox. Dai, okay. Claudio. Sono venuto a rabbiare. Grande, ciao Claudio. Radiocronista, ma niente. No, oggi non mi posso allenare, oggi faccio solo botte con Lorenzo. Dai, venite a trovarci. Ok. Dopo sì, dopo scendiamo. Fantastico, no, ma invece Cesa, ma io adesso devo cercare di recuperare la mia mente, ma io ho sentito una roba tipo, è possibile che un tuo omonimo, tu forse, partecipi come attore in una trasmissione di Radio Popolare in cui raccontano i crimini più efferati, le storie di crimine più strane della storia milanese tra il 54 e il 76? Anzi, 45. Te lo sei inventato adesso? Ma ti giuro, ti giuro, l'ho sentito ieri. Mi auguro che sia un mio omonimo, perché cioè, se dovessi essere io e non so niente, sarebbe veramente una cosa gravissima. Non vorrei dire tuo nome e cognome, però ti giuro, avete appena sentito, come si chiamava? Tipo Storie in Giallo, una roba del genere, i più grandi crimini raccontati a Radio Popolare quando ancora non c'eravamo, perché Radio Popolare è nata nel 76, sì. Per cui loro ti raccontano i più grossi crimini che sono stati nella storia milanese. Tipo l'altro giorno parlavano di questa sparatoria che c'è stata davanti in Via Novara, tra l'altro. In Via Novara a Milano. Altro indica me. Eh beh, chiaro, cioè, Novara, Lorenzo è uguale. E poi praticamente dove essenzialmente, perché diciamolo, perché non stare anche un po' ACAB, praticamente queste polizie, i poliziotti fanno un posto di blocco, vedono questa macchina che forse è posto di blocco, gli sparano e casualmente ammazzano una persona all'interno, ecco. Solo che in realtà all'inizio di questa cosa nessuno sapeva niente, cioè c'erano tutte le persone che facevano, che erano dentro l'ospedale San Carlo, che ai tempi era lì in Via Niguarda, in Via Novara, che erano testimoni del fatto che c'è stata una sparatoria, ma nessun poliziotto sapeva niente. Pareva che nessun poliziotto in tutta la Lombardia avesse avuto notizia di nessun conflitto a fuoco da nessuna parte. Poi cerca, viene fuori che il proiettile che era nel muro del San Carlo era stato esploso da una pistola eccetera, della polizia, eccetera, eccetera. Alla fine veniva fuori che, e una delle voci che avevano recitato era, posso dire il tuo nome e cognome? Eri tu, certo. Era Stefano Cesana. Pazzesco, ma perché questa cosa degli omonimi a questo punto inizia un po' a spaventarmi. Perché succede diverse volte? Succede diverse, cioè questa qui è la seconda volta che mi succede nel giro di una settimana di beccare un mio omonimo. Aspetta che c'è una persona che ti vuole salutare. Esatto. Oggi è il giorno di gambettese. Esatto. Prego, prego. Vai, intervieni, salutaci. Ciao ragazzi. Grande, il nostro idraulico. Eccezionale. Niente di questo è controllato. Ma nulla. Ma proprio niente. Assolutamente. Ok. Comunque, saluta sempre due volte. Esatto. No. Secondo me in realtà è probabile che tu di notte non dorma, ma abbia un'altra vita di cui non ti ricordi, ovviamente, tipo Donnie Darko. È probabile, per quello che sono sempre stanco, dici. Esatto. E fai anche queste cose a Radio Popolare. È incredibile. Incredibile questa cosa. Parliamo della puntata di Pillole di Ecologia, dai. Esatto, dici allora, qualcosa. Ah, Pillole di Ecologia, visto che io sono un ciambraccone che parla di cose di cui non sa niente. Non è vero, dai. Ma dai, ma non è vero. No, è quasi sempre così. Non sono solo io a fare Pillole di Ecologia da ormai due o tre puntate, bensì c'è un vero esperto. Sì. Nonché il nostro Vate. È vero, il Vate da from Denmark. Non è il Vater, eh? No, il Vate. Ok, che è Davide Barzotti, che è laureato in scienze naturali, sì. Ha un master in management ambientale. Un uomo con della conoscenza vera. Esatto, e lui è il nostro esperto al telefono che ci racconta di un po' di pillole. Che figata, ragazzi, questa cosa, che c'è una persona che dall'altra parte dell'Europa si prende a cuore i nostri problemi, ci risponde al telefono e ci dice la cosa giusta. È importante, infatti non siamo noi a fare questo. Esatto. No, è un mito lui. Fantastico. Ti mancava Zona Rossa un pochino? Sì, mi mancava tantissimo. Sai che abbiamo la domanda della serata? Esatto. Vai. È per lei, dottor Cesa. Sei pronto? Non lo so. Non puoi essere, tipico zona rossa. Non devi stare a pensarci troppo. Però qual è il peggiore 2D picche che hai ricevuto nella tua vita? Allora, il peggiore 2D picche ne ho ricevuti diversi, soprattutto da quello, quello che vuoi raccontare, anche non per forza il peggiore, quello che racconta. Allora, il peggior 2D picche, aspetta che ci sto pensando, Vabbè, è storia brutta di adolescente col cuore distrutto proprio. Ci piace, ci potevamo aspettarcelo, potevamo aspettare. Siamo qua per questo. Compagna di classe di cui ero perdutamente innamorato. Nome? Che, giriamo il coltello alla piaga. Elisabetta. Elisabetta. Potrebbe essere un nome qualsiasi, ma va bene così. Che bella che era Elisabetta. Vero? Già, era proprio bellissimo. Regale proprio. Regale, sì. Vabbè, niente, con cui, insomma, io evidentemente non sono bravo a interpretare i segni, il pensiero, i segni, eccetera, eccetera, per cui io mi ho fatto tutti dei film della Madonna. Proprio Spielberg. Andiamo, esatto. E andiamo in vacanza dopo la maturità. Sì. Io faccio tutta la strategia per trovare il momento giusto, eccetera, eccetera, e mi ha balzato sul più bello. No. Ma tipo, ciao, ci vedo a casa. Sì, esatto, tipo, sai, uno alza la mano per dare il 5 e l'altro non glielo ridà e quindi fa finta di chiamare il taxi. E si passa i capelli. Si passa la mano ai capelli. Esatto, più o meno così, però bello. Con il cuore distrutto. No, maledizione. E poi con una settimana in vacanza con questo, diciamo, disguido. Quindi assieme, ma con questo disguido del fatto che già sì. Si era capito che no. Che fresco, che freschissimo ha fatto quella vacanza lì. Che fresco. Grazie Stefano, sì. Grazie mille. Prego. Racconteremo adesso, entro la fine della serata, anche io e Lorenzo racconteremo i nostri peggiori 2D picche. Io ce l'ho. Anch'io ce l'ho, forse. Mi senti? Jacopo, sì. Stefano, ok. La questione, ho chiamato Jacopo, ma perché? Questione... chiameremo Stumpio adesso. Esatto, si chiameremo Stumpio. No, la questione è che, cioè, racconteremo anche i nostri 2D picche, non ti preoccupare, tu in confronto è stata una bella storia. Anche secondo me. Ok. Perché io toccherò il fondo e Lorenzo rimane un pochino più sopra, secondo me. Ok. Va bene. Grazie mille Stefano. Abbiamo deciso che non vi chiediamo più la musica, ma la mettiamo noi, va perché bene, sappiamo ma cosa volete. Posso chiedervi una cosa? Vai. Anche due. A proposito di carte, giochi. Sì. Sì. Lo sapete qual è la città dove si gioca a poker ma non si mangia carne? No. Aspetta. La città dove si gioca a poker ma non si mangia carne? No. Las Vegas. Oh mio Dio! Ora è veramente zona rossa. Mancava da tanto, mancava da tanto. Grazie raga della chiamata. Ma grazie a te, Cesa. Cesa, grazie che esisti, Cesa. Fine pomeriggio. Grazie mille, ti vogliamo bene. Ciao, raga. Ciao. Avrete il piacere di sentire Stefano Cesena in pillole di ecologia a breve su Radio ZM. Un genio. 19:21, uno zona rossa veramente esplosivo, va avanti. In questo caso io andrei a chiamare una donna. Chiamiamo una donna per forza. La questione è che ci hanno intimato di alzarci in piedi quando si parla del vate. Tu non lo sai, ma qui in radio eravamo sul soffitto praticamente. Siamo saltati in aria. Non si è sentito perché abbiamo portato con noi i microfoni. Ma sì, eravamo tutti in piedi. Io ce la posso fare due cose contemporaneamente, forse. Ma neanche tanto. Infatti le faccio abbastanza male. E soprattutto non mi ricordo che lei l'ho salvata con un'altra lettera iniziale. Perché sennò la cosa non si capiva. Giusto. Per cui abbiamo parlato di Akira, abbiamo parlato di pillole di ecologia, abbiamo parlato di 2D picche, abbiamo parlato di cose intelligenti e ora piombiamo in casa di chi sappiamo noi. Allora, e che secondo me rispondere. Questa voce in radio la stiamo sentendo troppo ormai. Vero no? Attenzione! Sei in radio al lunedì, sei in radio al martedì, sei in radio al mercoledì, perché sei solo tu, fai programmi solo tu, chiaro. Basta, Ma mi sembra che ci sia un po' di sovradeterminazione. Anche voi ogni tanto facciate radio, grandi. Grazie. Grazie sorella. Grazie mille. A proposito, vi ricordo che, cioè, visto che si parla di crossover, io ho una puntata crossover con radio con Zona Rossa già pronta da... cioè. Vabbè, ma vogliamo parlare degli albori? Dalla prima notte bianca presupposta tale. capito. Quindi ma stiamo gli albori del 42. Esatto, gli albori veri sono che ginnastica per stare d'attesa era dentro zona rossa. Certo. Diciamolo. Siamo la mamma, Guglielmo, siamo la mamma ufficiale. Abbiamo tenuto nel grembo Chiara ed è stato, è stato difficile perché ne sapeva già più di noi. Esatto, già di noi, esatto. Aveva già più qualità, più intelligenza. Ora ai sta tempi. Crescendo troppo, evidentemente dovremmo fare fuori tutto. Così, così, proprio così. Esattamente, ma quindi a questo punto, così per stravolgere anche i nostri ritmi soliti, andiamo subito a tuono con la domanda. E che si fa strana perché appunto in questo mondo ipersessualizzato, maschilista e patriarcale, tendenzialmente le donne non prendono di picche perché le donne non ci provano. Ma in realtà ma noi sappiamo. Lo stavo dicendo, è andata proprio così. Cioè? Non sono, cioè io ho il terrore del rifiuto da che ho imparato a camminare, uh-huh. Cioè l'anno scorso praticamente. Ok, era un rifiuto del pavimento. No, non è vero. Un rifiuto tipo la gravità. Avevo paura di prendere una cappata per terra. Non parliamo di bambini. No, no, esatto, io esatto. Purtroppo sì, sono vittima del patriarcato, come vedete, e non solo di quello, anche di una serie di paturni e varie ed eventuali, quindi effettivamente difficilmente ho come dire preso iniziativa. Ok, ma allora potremmo rigirare quindi subito la domanda in questa maniera: qual è la volta che ti ha... posso raccontarvi di un episodio che mi è stato raccontato. Vai, che ho molto apprezzato. Attenzione. C'è un due di picche di un amico che ormai non vedo più da una vita e mezzo, a cui è stato detto: non sei mai stato quello di un tempo. Vabbè, ma stavano coglionando, dai, no? Abbastanza, no, dai. Raga, no. Non sei più quello di un tempo. Perché no. Com'era un tempo questa non ragazza? Non sei mai stato quello di un tempo. Sei mai non sei mai stato quello di un tempo. Vabbè, ma non è vero. Sì. Cioè, vabbè, non c'è, magari era una ragione. Però è interessante anche rigirarla frittata. Quindi raccontaci un bel due di picche che hai rifilato. Dato. Oppure quello che ti è spiaciuto. Ma io sono un pezzo di cuore, ma vi sembra che io sono due di picche... Ma io sono, cioè, proprio in punta di fioretto. Comunque non è che abbia una fila fuori da porta, con calma, questo lo lascerei giudicare ad altri. Io mi ricordo che giocavi a carte con i cuori dei ragazzi che ti stavano dietro. Cioè, eri la regina di cuori di tutti i colori, diciamo. Con bische clandestine annesse. Esatto, esattamente quella roba lì. Regina di cuori. Questo era Liga, comunque. Che schifo, non sono nemmeno capace a fare. Cazzo dici che era Liga, ma ti... Era io ho fatto Liga cantando una canzone di Pelù. Non sono capace io di fare le cose come l'ho visto di recente a Sky. Ah, ok. Liga o Pelù? Liga. Fantastico. Ma tu sei uno di quelli che c'hai i contatti in alto, lui è forte. Puoi farmi ascoltare altri 15 minuti di xilofono de merda, per favore? Guarda, arriva tra 10 minuti. Quanto sprezzante, quanto effervescente la Buzzi. Quindi allora, due di picche non li hai dati. Le due di picche non ne hai presi e non lo so. L'unico due di picche che ci ha raccontato era una roba surreale. Non lo so. Cosa ma non, fare? Non in campo affettivo le ha presi lavorativamente. È lì che ti vogliamo. Lavorativamente. Parliamo di un due di picche proprio papem che ti ha preso in faccia così. Tu ci credevi tanto. Allora, posso dire, la prima volta che ho tentato, la prima delle non poche volte che ho tentato la strada per un dottorato, l'ho fatto nella simpatica e ridente Insubria. Ah, ok. Bellissima Insubria, meravigliosa. Bellissima, e praticamente sono arrivata che non so se avevo delle speranze, però sai... neolaureata abbastanza bene, così arrivavo dicendo vabbè dai ci troviamo così, e il tizio vabbè, a parte dopo aver sentito la commissione chiamare per nome un paio di persone già mi ero fatta qualche idea che no, però ma fino a un certo punto ho detto dai, no vabbè dai, non hai detto troviamoci che... comunque esatto. non è detta l'ultima parola, e il tizio subito prima di me nell'orale sì. Ha iniziato a disquisire delle sue... Posso dirlo che era un finanziere? Certo. Era un finanziere, merda. Quindi questo aggrava tutta la situazione. Molto. Ulteriormente. Madonna. Ha iniziato a spiegare tutta una serie di ricerche in campo diciamo politico-giuridico che stava portando avanti, e la conversazione si è conclusa con il presidente di commissione che diceva: beh, lei ha più pubblicazioni di me. Ah, beh, normale. secondi dopo sono stata chiamata io a fare l'orale. Fantastico. E a quel punto gli hai tirato una testata nei denti. E io al pubblico ma picchio di brutto. Guglielmo style. Ammazzo. Come andò? E io ci sono andata praticamente con la morte nel cuore, però con la gioia del soldato verso il plotone di esecuzione. Esatto. Io vado, arrivo. Bravo, esattamente. Mi butto. Sono andata così e ho detto non voglio neanche vendarmi, fate quello che dovete. Ti guarderò negli occhi. Fra 6 secondi, grazie. E fu lì che Goya dipinse il suo famoso ritratto dell'esecuzione. Sì, in realtà era la Chiara Buzzi con una camicia bianchissima. Eri tu. E la commissione era l'università dell'Insubria. Esatto, posto ridente località che speriamo un giorno salti in aria. Sì. No, non è vero, poveri amici e amiche dell'Insubria. Certo, dov'è l'Insubria? Non è mica dalle tue parti. Non è Piemonte? Più o meno. È dalle sue parti. È l'unica università che puoi beccare da zona mia in avanti. Ok. Infatti scappi molto spesso. E vieni a Milano. E vieni a Milano a fare la radio. Esatto. Vabbè, sembra. Vabbè. Sembra quello. Esatto, sembra quello. Diciamo. Comunque la tua zona regala emozioni, vero? Picarazzi. La tua zona regala Picarazzi. In questo momento sta nevicando un sacco, tra l'altro, lì. Che bello. Vabbè, ma senti, carissima Chiara, a questo punto cosa facciamo? Rinverdiamo una vecchia tradizione di Zona Rossa e ci dici tu chi chiamare? Oh mio Dio! Vai! Inversione, allora, questa non me l'aspettavo. Che oggi ho scoperto con questo bellissimo intermezzo sugli anime di cui non potevo veramente farne a meno. Non potevo veramente sottrarmi. Perché che, noi perché c'è un rapper, c'è un famoso rapper che si chiama Kaneda. E io fino ad ora non avevo capito a che cosa si riferisse. Andiamo a trovarlo subito. Ma vedi che comunque no, questo circolo strano. Stavo pensando. Anche senza. No, no, dai, proviamoci. Ma perché non è una cosa che ci piace? Non è. No, vabbè. È uno come tanti altri. Non è uno dei miei favoriti, come te. Ah, ok. Ma è italiano o international? Sì, era uno del giro. Vicino al giro Dogo Gang, diciamo. Ma pensa te. Ma sai che magari questa persona non avesse una cultura. Ah, è scritto con la C, non con la K. Però Kaneda 7.5? No. Non sapevo neanche che fosse scritto con la K quello di. Di Akira, no. Sì, esatto. No. Ma sono, così non pare da una prima visione così, non pare che siano collegamenti da una cosa all'altra. Non, lui non mette grafiche simili, il nome è scritto diverso. Per cui no, vabbè, però secondo me. Sì, cioè, è mutuato dal cognome. È inizialmente mutuato dal cognome. Ok. E dalla sua tag che si chiama Kano, cioè taggava Kano. Ah, però poi Kaneda suppongo che in una qualche maniera qualcosa di riferimento ce l'abbia. Vabbè, aspetta, è arrivata una freddura bellissima, ve la leggo in diretta. Fermi tutti. Perché ormai si è caricato come una molla, si vede che l'abbiamo sguinzagliato così. Sparare. Ma dai, ce ne di altre, sta scrivendo. Chiara, ci senti? Ci senti? La leggo, eh. Guarda, sì, sono già stremata. Vai. Perché in One Piece sono sempre tutti d'accordo? Perché è un anime. Vada boom, ragazzi, la radio esplode. Cioè, ma questa cosa qua Chiara, i ribelli ci sei? Ma questa cosa qua i ribelli ce l'hanno. Ascolta. Quando sono stramazzato sul pavimento. Un oggetto accuminato. Io devo dire che prima di morire penso che mi prometto che dovrò scrivere le motivazioni per cui Zona Rossa è Zona Rossa, perché evidentemente non viene carpito, no? Solo Chiara forse l'ha capito, ma nemmeno Carpaccio. Abbiamo avuto una discussione, una bellissima conversazione fuori dei microfoni con evidentemente persone che prendono ispirazione dal programma senza averlo capito, e forse questa è l'essenza del programma, non capirlo. Sai che inizio a pensare di sì. per te è la cipolla, comunque. Va bene. È decisamente la cipolla. Esatto. E questo, qui forse hai capito davvero Zona Rossa. Ma a questo punto puoi scegliere una fantastica musica reggae skinhead e, oppure no, una fantastica musica che viene dalla classe. Io adesso le metto i cosi. Purtroppo siete un po' bassi con il tappeto, non se ne percepisce. Ah, perché il tappeto non si sente. Allora vuol dire che potremmo alzarlo anche un po'. Potremmo essere più. No, perché prima abbiamo avuto un consiglio tecnico da parte di una persona, sì, che ci ha detto di tenerlo più basso. Lì era un po' alto, giusto? Devo dare più. Però così non si sente. Non lo sentiamo così. Stavate parlando. Beh, effettivamente tu dalle 117 puntate di 198 programmi diversi che fai, effettivamente un po' di esperienza l'hai accumulata. Non lo so, cioè radiofonisti Rai che hanno fatto meno ore in trasmissione di te. A me piacciono, a me piacciono queste cose in diretta, sono sempre gradite, anzi vi invito a scrivere al nostro canale Telegram @radiozam_chat, ma io vorrei sdoganarlo almeno in zona rossa, non so, volete provare la tastiera che vi hanno regalato nuova? Dai, su. Cioè, qualsiasi cosa volete provare a mandare un messaggio. Prendergli appunti, Riccardo ci fa compagnia, ci prende gli appunti sulla chat. Grazie, va benissimo. Riccardo, ci manda i messaggi dei cazzi suoi, cioè gli articoli che gli piacciono li mandi su Telegram della radio. Saremo anonimi, se non volete dire il vostro nome non lo diremo, il vostro numero sì ovviamente, però quello è un altro discorso. Chiara doveva dirci qualcosa. Tra l'altro guarda, no, volevo dire una roba, che siete dei personaggi torridi, perché io avevo già iniziato ad insultarvi quasi prima di ascoltare la trasmissione. Giusto, giusto. Questa cosa è solo una skills sulla pagina, senza ricevere nessun tipo di risposta. Ero quasi tentata di passare dal profilo personale a quello della pagina e rispondermi da sola. È vero, lo leggiamo in diretta. Perché sulla pagina di Radio ZTM è uscito un post in cui io ho malamente copiato e incollato. No, Katsuhiro Tomo, so come si scrive. Katsuhiro Tomo. Ho copiato e incollato il nome del compositore della sigla buonanotte, della colonna sonora di Akira, e sotto un bellissimo commento: ricordiamo ai gentili radioascoltatori che i nomi di Katsuhiro Tomo e dell'altro sono stati scelti così, e sotto c'è il sito genera nomi random dalla lettera A a Z, che metteremo nei preferiti delle pagine. Ma quanto è furba questa ragazza, è una più del diavolo. Ero lei a Rommel, alla volta del deserto. No, tra l'altro è arrivato un altro commento proprio adesso, non so, da qualche editore anonimo, sì, che dice: grande, sei proprio simpaticissima, ti vogliamo bene. E io non posso che essere grandissimi. È vero, anch'io. Facciamo anche queste cose. Va bene. Ce la cantiamo e ce la suoniamo così tanto che ti facciamo scegliere una delle tre tracce che ti propongo adesso, solo della colonna sonora di Akira. Puoi scegliere se Requiem, bella, Illusion, bella, o Battle Against Clown. Molto bella questa. So già cosa sceglierai. Battle Against Clown. Brava, anch'io. Brava, anch'io, proprio quella. Bravissima. Esattamente. Vabbè, mica Requiem, cioè, se quella di prima non si chiamava Requiem, era una di musica pallosissima, cioè adesso scegliamo Requiem. Quanto è milanese la Bizio. Andiamo a scontrarci. Beh, figa, del tipo di merda. Questa, adesso certo, faccio... Figa. Entro a gamba tesa con la parentesi, la rubrica Lorenzo, seconda parte. No, in questo caso abbiamo una traccia bellissima che è Battle Against Clown, è la scena, una delle scene più importanti, perché del film ovviamente, bypassiamo l'anime per un momento, perché le tantissime case di produzione che hanno collaborato alla realizzazione del film sono state premiate tantissimo per gli effetti speciali innovativi, perché nell'88 non si erano mai visti delle luci di moto, che Guglielmo ha ricordato avendo visto il film comunque un sacco di tempo fa l'ultima volta, perché rimangono molto impresse nella memoria, perché sono veramente molto belle. Contestualizzarle al 1988 è una figata, nel senso che non se le aspettava nessuno. Sì, ma non parlare così del 1988, l'altro ieri, giusto, giusto. Tu ne hai 12 anni, tu, Chiara, cioè vai per 22, siamo onesti, tu vai per 23. Chiara, ascolta la traccia, grazie, dimmi cosa ne pensi. Sì, Chiara, dimmi cosa ne pensi. Non vedo l'ora. Ciao amici. Ciao Buzzi, è stato fantastico. Ciao, mua mua. Thank you. Intanto siamo tornati. I bellissimi messaggi. Per farci capire come è stata composta questa musica, vedete, qualche scimmia è stata lasciata solo con uno xilofono. Delle gif che piaceranno un sacco a Davide, che metteremo nei commenti delle varie chat. Comunque, invece, la persona. Pronto! Un evergreen è tornato su Radio ZM. Ciao, Maya. Ciao a tutti, tutte e tutto. Soprattutto. Maya che risponde da 937 km da Milano. Noi arriviamo ovunque. Ma tu sei ancora a Los Santos? Maya? Sono ancora bloccata allo Santos, come in Jumanji. Ma, se non colloquio non appare, qui dovrai restare. Madonna. Esatto. Cosa è successo, Maya? Perché non sei libero? Cioè, free Maya from Los Santos. Dobbiamo venirti a prendere con un furgoncino targato zona rossa? Oh, gira che ti rigira, te lo stanno dicendo un po' tutti e tutte. Ma lo so, sì, ma lo so. Ma io sto cercando pure di scapparmene dalla provincia, perché Los Santos è bella l'estate. L'inverno è un po' meno. Un po' meno. Inverno sembra inverno, zona arancione, sembra di essere tornati al 2002 praticamente. Bello. Vabbè, dai, quindi tu a questo punto avrai qualcosa come 10 anni al massimo, 8, 9. Quanti anni hai tu nel 2002? Nel 2002 io c'ho 8 anni. Ah, interessante. Ecco, sì. Ricordati di questa cosa quando faremo la domanda della puntata, perché abbiamo una domanda. Esatto, abbiamo una domanda, ma prima ci imponiamo adesso, Maya, io e te insieme imponiamo a Lorenzo di non ridere. Lorenzo, non devi ridere, l'ultima volta che abbiamo chiamato Maya è finita male. Stavamo ricordando prima in chat, un secondo, mentre parlavamo prima di questa chiamata, perché io e Maya ci scambiamo i messaggini. Ebbene sì, ci scambiamo i messaggini. Non messaggini. Dell'infarto che stavo avendo, che periodo era? Ma non lo so, faceva quasi... Era Londra. Maggio. Era quando dicevo appunto che sembravo di essere la pazza di Simpson che gridava l'apocalisse. Sì, che avevi fatto la spesa in un supermercato e avevi rifiutato di picchiarti con la vecchietta. Ma io vi assicuro che anche se ci sforzassimo adesso non potremmo costruire tutti quegli elementi che hanno fatto sì che io iniziassi a ridere così tanto, perché non mi capita spesso. Ma no, ma perché era la signora anziana che mi ha guardato vedendo la salsa tipo al tabacco, sì, sotto la cosa della passata di pomodori. Mi ha guardato e ha detto: vabbè signori, le faremo coi pomodori le passate. Va bene. E tra l'altro la signora a Londra parlava in pugliese, meraviglioso. Esatto. Meraviglioso. La signora gli ha fatto in inglese, va signori, che dobbiamo fare? Fantastico. No, certo, più pugliese che malattia del mondo, raga. Assolutamente. Ma comunque, ti abbiamo lasciato a Londra, adesso sei giù, no? Ti abbiamo chiamato anche quando eri giù un'altra volta, o sbaglio? Sì. Non ci sono state tante risate? Sì, però... no, voglia. Esatto, esatto. Quindi come stai? Raccontaci. Come va? Nel senso, sembra essere appunto, come dicevo all'inizio chiamata, bloccata in Jumanji. Mm-hmm. E con questo mood del finché un colloquio, un posto di lavoro, uno straccio di speranza nella vita che questo 2020 ti possa dare, se non appare, allo Santos dovrai restare. Ma non esatto. E così sto rimanendo. Tu che professione stai cercando? Tu che cosa vuoi diventare? Qualsiasi da cosa. Grande. Io lavoro da grande? Esatto. Dai, sì, dici il sogno. Da grande vorrei non lavorare. Madonna! Che compagna! Che compagna, bello questo 1970, cazzo! Bello, bello, ci piace. Vabbè, comunque nel mondo della comunicazione, che cazzo, faccio solo quello in vita mia, comunico. Verrà a parlare comunico con te, comunico e dico stronzate. Chiaro, avrei bisogno di qualcuno che mi spiega come comunicare, perché molto spesso faccio degli errori mastodontici. Quindi tu mi hai fatto studi in diverse lingue, diversi paesi riguardo alla comunicazione. Signorina Maya, a questo punto ci presenti un po' la sua carriera universitaria, così noi da agenzia Trovo Lavoro Zona Rossa le forniremo proposte di lavoro. Ci racconti? Una meglio dell'altra, immagino. Ma veramente vuoi che il CB? No, guarda che sennò ci mettiamo un po', addirittura. Ma invece vogliamo sapere un'altra cosa da te. Vai. Sì. No, è tua. Allora, faccio io. Allora, la domanda di quest'oggi è questa. Qual è stato prenditi il tempo, Qual è stato il ricordo, diciamo, il più doloroso ricordo di un 2 di picche che ti sei presa nella vita? O il più assurdo? O quello che ti ricordi di più? Di un 2 di picche? Esattamente. Ne ho avuti così tanti in vita mia. Scegliene uno da raccontare. Condividiamo il destino allora, cara Maya, che siamo in tre ad aver preso una serie 2 di picche, che potremmo tutto il mazzo di carte vendere. Due, c'era la carta 2, questa 2. Ma cosa stai anticipando la mia storia? Tutti in faccia. Sì, a un certo punto le picche hanno detto: oh, ma ancora tu, Sai che cos'è? Ha solo lance, avete una falange oplitica solo di lance. Sì, allora, il 2 di picche più brutto. Allora, fatemi invece pensare. L'ultimo. Vai, più fresco. Freschissimi. Il freschissimo. Allora, prequel, cioè dovete sapere che io sono di quelle persone che regala l'amore. Cioè, nel senso che una volta che io mi interesso a te, tu sicuro la volta successiva trovi l'amore della vita tua, ti sposi, tuoi figli, cioè, quello è certo. E si sperava potesse non succedere con quest'ultimo due picche, perché la controparte aveva completamente cambiato squadra proprio di gioco. Quindi... attenzione. Quindi dici, magari la situazione è un pochino diversa, gli permette di avere qualche vantaggio. E invece è successo che si sono beccati, per fortuito caso, sulla spiaggia. No, chi? Dopo 4 anni che non si parlavano, no, sono tornati insieme. Ma no, ma dai, ma cos'è sta roba? Ma che gente c'è in giro? Ah, che storica, che allora, te devo dire? Maya, la zona rossa job placement ti offre questo servizio. Noi potremmo fare dei piccoli buchi con una piccola punta da trapano nei polpacci di questi individui e metterli dentro i mini ciccioli e fargli esplodere i polpaccetti. Questo facendo dei buchi nel tempo spazio andando in quesamento. Esatto. Cioè, è proprio un servizio completo alla Tenet. Tu vedrai, sono andato degli scemi che in spiaggia ti sta a saltellare urlando dolore mentre gli esplodono i polpacci. Non ci vedrai noi perché dentro saremo inversi. Esatto. Comunque questa è proprio sorellanza, grazie. Assolutamente, siamo qua per questo, abbiamo aperto questo momento, poi se ci ascolterai diremo anche le nostre a un certo punto, esatto, non si sa quando, certo, però a un certo punto lo faremo. Verso le mezzanotte. È giusto così, cazzo. Quando finirà la trasmissione. Maya, ma noi siamo veramente vicini, ma che cavolo di sfortuna veramente, ma che brutta cosa, è ingiustizia. Che devi fare? È ingiustizia. Ma quella non è sfortuna, a un certo punto è essere la beffa di ogni statistica, cioè un po' diverso. Sono d'accordo. Cioè nel senso, la sfortuna è la fantozzi. A me è un qualcosa di scientifico. Tu sei la coda e la testa delle... Tu sei la coda e la testa degli eventi della gaussiana, praticamente. Cioè, Giacomino, esatto, entri in radio e non saluti neanche. Ah, esatto. No, ciao al microfono. Maya, scusa. Ci sono dei compagni, delle compagne che sono qui con noi stasera. E ciao. Saluta. Ciao a tutti e tutti. Guglielmo, non fare mai più quella cosa lì. Esatto, perché c'è il nostro microfono si sta... Devono avvicinarsi loro. Ho sollevato il microfono e i potenti mezzi di Zamo hanno fatto sì che è iniziato a crepitare l'universo. degli shock, dei fulmini orribili e osceni. Maya, io mi metterò a piangere quando tornerai, lo sai. Dai. Madonna, anch'io. Ma perché poi sei un ricordo molto indelebile di quanto certe cose erano belle prima del Covid. Madonna, io ho i weekend, per esempio. Io e te, tipo su una viglia a bere. Capito? Capito? Madonna. Che ridere, sì. Madonna, che ridere. Va bene. Un po' mi sono offeso perché non mi avete invitato. Merde, bastardi. La prossima è vero. Malissimo. Avete fatto bene, ci mancherebbe. Io ricordi altri. Esatto. Lasciamo perdere. Con loro era proprio nella movida milanese. È giusto così. Noi siamo gente. Siete gli ultimi dadaisti. Voi siete dei bohemien. Voi siete dei cristalli di Boemia, praticamente. Noi andiamo a cercare la risposta nelle strade. Esatto. E trovate solo un sacco di pietre che vi prendete in faccia. Sempre con. Comunque Zona Rossa è spesso sconsiderata e ha fatto cose orrende, tipo collegamenti di casa di gente da cui poi tra poco andremo, perché tra poco richiameremo Andrea Staidi, che ci ha assicurato che risponderà al telefono forse. Ma noi lanciamo quest'altro progetto sconsiderato, Rescue Maya. Noi faremo una carovana che viene a prenderti. Da domani partono i cartelli. Vai, noi potremmo fare. Oh, scusami, ma magari, come Zona Rossa facciamo dei comunicati. Ma fermi tutti, ma questi DCPM del caro Conte, sì, cioè non ci permettono un buco legale, per cui ficchiamo due macchine di compagni ubriachi, ubriache, e brum, ci facciamo tutta l'autostrada diretti da Maya, pigliamo Maya per il peso, la gettiamo e torniamo nel bagagliaio e si scappa. Io ci sto. Ma sicuro si può fare, però raga, ve lo devo dire, perché per solidarietà, se scendete prima del 24, il 24 a Bari e Kabul. Bello. Apposta. Ma io porto la videocamera. Abbiamo gli elementi per una bella frittatona qua, eh? Anche secondo me. Adesso secondo vediamo me. Se mettiamo in padella, iniziamo a far andare il fuoco, vediamo cosa succede. Va bene, Maya. A questo punto noi mandiamo dell'ottima musica che ha scelto Lorenzo. Allora, puoi scegliere. E io ascolterò dall'altra parte. Però devi scegliere un nome tra Illusion. Attenzione. Illusion. Mutation. O Winds Over Neo Tokyo. Cosa ha detto? Cosa? Il vento sopra il Neo Tokyo. E cos'è che hai scelto? Mutation. Andiamo sul pesante, grazie Maya, è stato un piacere. Ci sono davvero contento, davvero tantissimo. Anch'io, raga, e non vedo l'ora di vedervi. Ciao Maya. Ciao. Ciao. Bella brava. Rientriamo con la pillolina Lorenzo a gamba tesa. In questo caso abbiamo la scena che ha citato Guglielmo a inizio puntata. Cioè? Mutation è il momento in cui Tetsuo dà di matto. E anche il suo corpo. E inizia a non riuscirsi a contenere. Quindi il mostro viene fuori. Vi consiglio, che è una scena veramente, veramente molto pesante. Quasi angosciosa, anche perché c'è un po' di, come si dice, di non di osceno, è proprio un po', cioè ti fa quasi repulsione, fa quasi senso, perché ingoiare cose all'infinito. Ma poi se la guardi bene ci sono dei dettagli che quando passano dici avrei preferito non vederlo. E invece, l'ho visto. A dopo. Poesia. Eh già. Zona rossa è anche questo. Ci scusiamo, però entriamo a gamba tesa. Ci piace così e basta. Anche se in realtà qualcuno ci suggerisce via Telegram Ah, giusto, giusto, giusto, giusto. Aspetta, riprendiamo un attimo. Ok, diamoci un tono, un secondino. Esatto, una notizia importante. Molto importante, eccoci. Allora, ci arrivano messaggi da il caro Stefano e ci dicono che hanno inventato dei test psicologici che si basano sui titoli della musica scelta da Lorenzo. È vero, intanto Stefano è psicologo, ora potremmo chiamare un'altra psicologa, ma forse non abbiamo, forse abbiamo il tempo, dopo la chiameremo. Forse, è vero. E in realtà andiamo da lui che solo ha cercato di darci un senso alle nostre idiozie, che ha avuto la pazienza di sopportarci, io non trovo il numero perché sono stupido, no, l'ho trovato, ma noi l'abbiamo ripagato con un lavoro fatto un po' male, abbiamo abbonticchiato dei sassi a caso perché nella sua casa io. In Liguria, perché non c'era Lorenzo. Vediamo se torna lui, l'antropologo più faico del mondo, più simpatico del pianeta. Mi aveva detto che forse non avrebbe potuto rispondere. Mi ha detto verso le 8 magari o 5 minuti liberi per voi, poveri plebei. Chissà, chissà se ci risponde. Forse io sono preso. Un po' di disagio perché non abbiamo neanche un tema da che te, il tema lì, facciamo la domanda. Cioè, è umano pure lui, ma mi sa che poverino è un po' preso. Sarebbe interessante sapere la sua risposta. Visto, ma te la racconta sicuramente. Quella volta che a opera là, dove facevo le penne di booster, mi rispondeva la segreteria telefonica. Cosa facciamo? Andiamo da un'altra psicologa. Dai, andiamo da un'altra psicologa. Vediamo detto. Cosa ci dice. Vediamo cosa ci dice, perché ci piace tirare in mezzo le persone. Lei non è ancora stata chiamata. È uno dei neoacquisti della anno, potremmo ringraziare la pandemia perché lei, come tanti altri e altre, abbia iniziato a fare politica con noi. Ci risponderà, veramente ci risponderà. Molto simpatica, io sarà mi diverto presa. Un sacco, competentissima, spero simpatica. Risponda, fa capoeira. Ciao Benedetta, tutto bene? Ciao Gulli. Sì, dai, bene, grazie. Ascolta, un piccolo abbastanza bene, grazie. Ciao Benedetta, tutto bene? Ciao, bene. Senti, ma tu hai iniziato a sospettare qualcosa? Se ti chiamano due persone, le due persone sono queste, a quest'ora della sera del mercoledì. Oh no! Sì. Invece sì. Non te lo aspettavi? Va bene, dai, sono pronta. Ah, perfetto. Basta, si è già legata alla fascia da kamikaze intorno posto, alle tempie. Sai che pensavo che mettesse giù all'istante? Ma sì. No, una ragazza coraggiosa. Già mestolo in mano perché stavo cucinando. Oh cazzo. Giusto. Per pestarci male. Giusto. Anche se sono terrona, oggi ho iniziato a cucinare alle 7:30. Ma infatti stavo per dire che sono solo le 8:05. Esatto. E come hai iniziato così presto a cucinare? Impegni durante la sera? Perché la mensa scolastica, a parte che è alle 12, poi diciamo che spesso lascia desiderare, quindi... Si ha fame. C'ho fame proprio. Vabbè, benvenuta su Radio ZM comunque, mi sa che è la tua prima volta. Ciao a tutti. Benissimo, benissimo. Sei su Zona Rossa, che è il programma... comunque piatto milanese, In linea con l'orario, diciamo, per risotto. Un bel risotto, fantastico. Risotto con zafferano? Con radicchio. Comunque c'era Lorenzo che ti stava introducendo alle gioie di Zona Rossa. Zona Rossa è quel programma dove puoi dire quello che vuoi, devi sbagliare, cioè non sentirti in nessun modo un ospite, sei un ospite indesiderato in realtà, perché noi chiamiamo solo gente che vogliamo disturbare. Esatto, noi disturbiamo di professione noi. Infatti stavi cucinando e hai ricevuto una telefonata che adesso ti impedirà molti movimenti. E magari poi non riesci a mantecare il risotto, poi ti viene scotto il riso. A quel punto quando lo mangi quella colla orrenda, dire: ma che simpatici quei due, ma guarda la prossima volta gli rispondo ancora. Ebbene sì. Allora, tu sei un'abituale consumatrice di Radio ZM, ascolti molto spesso, ma forse in realtà lei è già stata interrogata dalle ribelli, è possibile? Che tu sia andata in trasmissione con le ribelli? No, andata a salutarle, ma non mi hanno chiamato loro, no. Perché loro non fanno telefonate, no, esatto, non hanno avuto occasione. È la mia prima. È andato così, ti abbiamo conquistato per prima noi. Ma va bene, allora, noi abbiamo un tema stasera, una cosa particolare di cui ti parlerà Lorenzo perché ne è l'ideatore. Quindi è un po' colpa sua, io faccio un po' tipo Ponzio Pilato, me ne lavo le mani. Esatto, se ne lavo va le mani. Va benissimo. Fondamentalmente ti va anche bene perché oggi siamo un po' sulla falsa riga di quella che è stata una puntata delle ribelli di domenica scorsa, che mi ha dato da pensare a una domanda. Tendenzialmente facciamo sempre le domande alle persone che chiamiamo. La domanda di oggi è questa. Hai voglia di raccontare un 2 di picche assurdo che hai ricevuto? Allora, ne ricordo uno che, non so assurdo cosa intendi con il termine, ne ricordo uno che mi colpì veramente tanto. Vai, intendevo quello. Ero una pargoletta di terza media. Fantastico. E io ero innamorata persa di quest'altro ragazzino della mia classe, super brillante, lui lo Spavaldo. E con la mia timidezza un giorno ho detto basta, adesso le lo dico. Via, okay. Sei lanciata. Basta, le l'ho detto che ero innamorata di lui. E lui mi disse in modo molto schietto, senza farsi un minimo di problemi: io con i pachidermi non ci sto. Mamma mia. Che brutto. Ma educhiamoli da piccoli. Immagina il mio cuoricino spezzato in terza media. Quella ancora me la ricordo. Ci credo, ci credo in pieno. Va bene, allora noi prima per Maya siamo stati zona rossa, job placement, potremmo essere, non lo so, tipo mangime per maiali, andiamo a prendere questo, lo facciamo a tocchettini e lo diamo da mangiare a tanti belli animali da fattoria. Tanto sai nome e cognome. Esatto. Nome e cognome, certo, è sta a Lecce comunque. Oh, è già che passiamo, dobbiamo scendere per andare a prendere Maya. Esatto, giusto? Può darsi che si scenda per andare a recuperare una compagna rimasta bloccata negli usi e nei costumi, soprattutto nella disoccupazione di Los Santos. Che è un paesino in provincia di Bari, forse sì. Pure lei, sì. Per cui magari già che passiamo di lì andiamo anche di là, facciamo un'inversione temporale, rimaniamo con la ventina d'anni in inversione temporale e andiamo a far saltare gli Zebedei a questo antipatico. Mi è venuto in mente una cosa. Nome e cognome ve lo dico adesso in diretta o ve lo scrivo? Ma magari c'è una chat Telegram. Esatto. Bellissima. Esatto, ce lo scrivi lì. Basta digitare chiocciola Radio Zam. No, l'ho già scritto. Brava, trattino basso chat e poi scrivere lì. Ma questo nome, perché? Come... Allora devi sapere, Benedetta, che noi veniamo ascoltati dai media 6, 7, 8 milioni di persone a seconda della giornata. Cioè, se si collegano dalla Cina, non si collegano. Riceverai tante richieste d'amicizia su Facebook. Esatto, domani. Primo. Secondo, non vorremmo che magari diffondendo il nome e cognome di questo magari veramente lo troviamo tritato male, ammazzato malissimo. Lo vogliamo fare noi. Esatto, e quindi non è bello dire pubblicamente il suo nome, non ci piace. Io ricordo una cosa molto bella di cui vorrei parlare per qualche minuto, che tu hai avuto una splendida idea qualche mese fa, che poi è stata, in realtà è stata realizzata, perché questi fogli che adesso ci racconterai cosa c'era scritto sono stati messi nei pacchi alimentari che distribuiamo con le brigate, con la solidarietà popolare. Hai avuto una bellissima idea per la radio. Sì, volevamo fare insieme a due altri compagni una radio dedicata esclusivamente ai bambini ed in particolare avevamo il piacere di leggere insieme a loro come per primi partecipi e attori, delle favole insieme. E questo diciamo un pochino per rallegrare dei pomeriggi comunque di quarantena dei bambini che magari non stavano avendo più nessun tipo di socializzazione e si pensava appunto di renderli partecipi in questo modo. Una bellissima questa è stata idea. L'idea sì, mm-hmm. sì, proprio bella. Tanto riescono bene le favole alla radio. C'è anche noi abbiamo trovato qualcuno che le leggeva forse. C'è stato un momento in cui abbiamo chiamato dei bambini e delle bambine e lo facevano loro. Come siamo orizzontali. Mamma mia. Bene, bene, grazie Benedetta. Possiamo rifarlo però. Dobbiamo, dai, dobbiamo, esatto, assolutamente. Facciamolo. Come il programma in cui sonorizzeremo i film, faremo anche questo, sì, esatto. Bene, sì. Chiamiamo un sacco di bambini e facciamo leggere le favole. Io già ci stiamo pensando, adesso vediamo, magari possiamo realizzarlo con Benedetta, sarebbe interessante. Ci sta. Molto, molto. Grazie Benedetta. Grazie mille Benny. Allora a questo punto mi sa che molto probabilmente tu sarai l'ultima telefonata della serata, perché sei fatta una certa, come si dice da queste parti. Eh sì. E avrai anche l'onore di scegliere la prossima traccia. Ti diciamo dei titoli e tu dovrai scegliere uno di questi titoli. E tanto essendo tu psicologa, cerca di capire perché Lorenzo ti pone queste tracce e non altre. Allora, il primo titolo premettiamo, è la colonna sonora di un anime giapponese che si chiama Akira, che ti consiglio. Il primo titolo è Shomihyo. Penso che sia giapponese. Okay. Probabilmente. Il secondo, rilanciamo Requiem, perché è interessante in realtà, ma non voglio traviarti. Sì. E il terzo, lanciamo Exodus from the Underground. Ok. Che titoli che hai da scegliere? Come ti invidio, Benedetta, guarda. Vorrei essere in te. Vorrei essere in te. La volta prossima l'album lo porta Guglielmo e finisce in drum and bass. Ciao proprio. Ancora una sonora di crank. Che sarebbe anche a me veramente. Vabbè. Adesso finisce la parte mia, tranquilli. Te li devo ripetere? No, se non sbaglio di Akira, tu c'è il poster in camera, sbaglio. Madonna Benedetta, grande, brava. La bene una c'è una storia dietro quel podcast, Poi va Freud, sì. Pronti? Scelgo Requiem, mi sa. Oddio, l'ha detto. L'ha scelto, si è fatta avvizzare da Lorenzo, ma è una persona generosa, la Benny, è fatta così. Io ti consiglio di ascoltare perché sopra questa canzone, una certa, io e Guglielmo racconteremo i nostri tuoi tipi. Cazzo, è vero, adesso tocca a noi, Grazie Benny. Pezzi. Vai. Ciao Benny, buona serata e buon risotto. Grazie, ciao ragazzi. Ciao. sappiamo che è pesante, lo riconosciamo, però bisogna affrontarlo. Questo disco è pazzesco. Aspetta, così, aspetta che rimetto il reg, perché vai. No, non vuoi togliere, no, dove ci sta, dai, no, dai, recuperiamo meno, un po' di sanità mentale. Esatto, giusto un attimino, affidiamoci ai caraibici, perché abbiamo dei compagni e compagne che ci tengono a ascoltarci e lo fanno, esatto, comunque, quindi ci ascoltano fino alla fine. È venuto, esatto, il nostro tempo, Lorenzo. Dobbiamo raccontare il nostro di picche fenomenale, fantastico. Devi cominciare te. Vai, inizio io. Allora, c'era una ragazza che mi piaceva molto alle medie, si chiamava Martina, ed era una delle ragazze più gettonate di tutta la scuola. E io, dopo 2 anni che ero infatuato, cotto, perso di lei, ho avuto la bella idea di provarci. Era, sì, era la prima e la seconda media. La prima e la seconda media ero innamorato di lei, ci ho provato più o meno alla fine della seconda. E mi ricordo questa scena sulle scale della scuola media Locatelli Oriani di via Pisacane. Attenzione. E praticamente cosa succede? Che gli chiedo, le faccio questa fantastica domanda: ma tu ti vuoi mettere con me? E praticamente la questione è che io non ho nemmeno finito la domanda e lei aveva già capito, mi ha risposto no in faccia, ho sparato a 200 km/h, e io ho detto vabbè, è finita qua. E poi in realtà sì, mi chiese scusa, perché in realtà lei era faceva parte di un terzetto di ragazzi che conoscevo molto bene, di cui lei era la più, diciamo, la più carina. Però in realtà poi mi veniva a spiegare che le spiaceva anche avermi risposto così, che le stavo simpatico, però quella settimana lì aveva ricevuto un po' troppe avance e quindi era un attimo un po' innervosita dalla cosa, giustamente, per cui, colpa nostra, giustamente. Esattamente, siamo stati in troppi e soprattutto pressanti, ansiolitici e fastidiosi, e io mi sono preso questo bel no sparato in faccia. Ho detto vabbè, dai, almeno me l'ha detto chiaramente, e sono andato avanti. Dopo lì in avanti la mia vita è andata uguale a prima e non ho beccato niente comunque. Quindi malissimo. Esattamente, esatto, esattamente, sì. No, perché quando ho proposto questa cosa a Guglielmo abbiamo riso entrambi, perché ovviamente avremmo potuto fare, non dico una puntata se non 10, su soltanto i nostri pick ricevuti e bellissimi e tutto. Però siccome mi è venuta in mente questa domanda, e magari ci si chiederà perché mi è venuta in mente questa domanda, perché la mia storia è molto interessante. Eravamo a Viareggio, ed era tipo la prima, seconda liceo, Viareggio in Toscana, Viareggio in Toscana, quindi, esatto. Quindi eravate in uscita con la scuola? No, eravamo in estate piena. Io raggiungevo mio zio per andare a lavorare da lui, perché aveva una pensioncina, un alberghino, e mi lasciava un pezzo di stanza, io potevo passare l'estate al mare. Era una cosa bellissima, un scambio così. Una cosa bellissima che facevo d'estate. E ci raggiunge questo amichetto milanese e in due usciamo la sera e conosciamo due ragazze. Quindi inizia quella classica cosa dell'uscita a quattro. Certo, no? Sui tavolini di una spiaggia di notte stavamo giocando a carte, sabbia fredda sotto i piedi, e c'è stato questo momento in cui io e lei siamo rimasti da soli, perché gli altri due ovviamente erano riusciti a trovarsi e andare a farsi un giro. Ora io mi faccio avanti e lei mi regala la carta del 2 di picche. No. Comunque, ora la pacca sulla spalla, e quella carta è rimasta nel mio portafoglio per un sacco di anni e l'ho persa di recente. Ah, perenne ricordo di come può essere. Comunque, guarda che c'è effettivamente un po' di ironia, non macabra, nemmeno cattiva. Però ogni tanto le ragazze di piccolo te le servono così, no? Come una battuta un po' acida. Siamo, ecco, diventati amici, amicissimi. Ah, meno sì, quello. Sì, assolutamente. Dovremmo andare a controllare l'etimologia del termine e dare un 2 di picche. Cazzo, ci vuole Lorenzo Gasparini. Butz, se ci ascolti, ci sarebbe bello avere una risposta in diretta. Siamo sicuri che adesso la Chiara lo farà. Basterà chiacchierare dicendo cose inutili per abbastanza tempo e ci arriverà un'informativa a riguardo. Esatto. Intanto ci dicono che la musica pesante è pesante, quindi fantastico, è vero. Verrà anche a tempo con le musiche delle GIF che sono state inviate, che manderemo sul canale Telegram, certo, dove il giorno dopo Riccardo scriverà: ma raga, ma cosa sono ste cose? Ma raga, ma perché avete cambiato orario del programma? Mi ricordo ancora quando mandammo Lula Hop un video in cui c'era un hula hoop gigante, perché parlavamo di il più grande hula hoop della storia. Riccardo rimase sconvolto. Ragazzi, cioè, sconvolto. Riccardo è ingegnere. Esatto, non dovete, esatto, sorprendervi se non capisci. Ma oggi è un giorno importante, perché vogliamo fare in diretta gli auguri a Gioia, che compie, tanti auguri, ricordo, Gioia! Un sacco di anni, augurissimi. Ma cosa, che era bambina, per farla 23 al massimo. 24. Sì, che bella età. Ne manca un anno e 25 che è la mazzata. È la mazzata. Quindi Gioia, ma chiamiamola. Chiamiamola, dai, ma siamo qua apposta a fare questo, che ci frega. Però prima voglio dire una cosa intelligente, ma ovviamente è sfuggita. Va così. Gioia. Ok, allora andare a casa di un altro Curziotti, di un'altra Curziotti. Intanto ci è arrivata la spiegazione del Minchia, perché. Boom, raga, ma quanto è bello avere Chiara in redazione, ma raga. Poi la leggiamo. Dai, leggiamo la Gioia, bastiamo un discorso, esatto, serio. Ma poi lei già sa la domanda. Lei già sa la domanda, perché? Perché è la mia coinquilina. Certo, ne parlate così a colazione, si parla di zona rossa. Tu non hai capito, ma sai che oggi ero felicissimo, cioè È l'unico momento in cui rido nella settimana. Ah, la Madonna, ma questa pensa che subito, brutta settimana. Subito dopo aver detto che convivi con gioia, dici l'unico momento in cui ridi è mercoledì sera. Generale, nella mia vita è proprio brutta, quindi zona comunque rossa, che regala. Che trip abbiamo fatto questa puntata? Cioè, inizio giugno. Gioia, ti sei ci sei giocata i tuoi minuti di festeggiamenti. Questa è una brutta cosa perché no, vabbè, poteva avere il telefono da un'altra parte, non l'ha fatto apposta. Cosa sta facendo Gioia in questo momento? Sarà cucinando qualcosa per la cena che c'è in casa mia. Insomma, andiamo avanti. Leggiamo a gran voce. E magari chiudiamo anche sto programma, c'è dopo. Il motivo. Tipo, no, si potrebbe fare anche così. Peccato. Il motivo per cui lo chiamano Due di Picche. Ci arriva dalla redazione. Mettiti sotto Requiem di Akira, una bella canzone. Mettiti sotto. Pesante e pesante. Esatto. Allora, come molti sapranno, quadri, fiori, cuori e picche sono i semi delle carte da gioco francesi. Ok. Le picche, di colore nero e a forma di cuore, con la punta rivolta verso l'alto ed uno stelo inserito nel mezzo, sono quelle che valgono di meno. Ah, ecco mai. In più, essendo il 2 la carta minima in qualsiasi gioco e per qualsiasi seme, tra le 52 che compongono il mazzo, il 2 di picche è la più bassa in assoluto, talmente scadente da far fuori chiunque la possieda. Ma in che gioco? Associato metaforicamente alla vita di tutti i giorni, quindi il 2 di picche ha un significato ben preciso: togliere a chi lo possiede qualsiasi speranza di vittoria. Il significato del perché si dice 2 di picche, perciò, è quello di allontanare qualcuno da qualsiasi possibilità di successo. Ah. E dice di essere semplicemente l'unica che ci risponde. Dai, è una amara verità, ma ci piace così. In realtà, in questo caso, a me viene in mente una cosa che ha dell'incredibile. Sì. Non l'avrebbe mai detto. Quelli che sono i miei ragionamenti. Certo. Quindi è un altro momento Kira, no, è un altro momento Angelo Lorenzo? Lo dico dopo. Ok, lo dici dopo. Vai. No, io ho fatto una cagata. Dicelo adesso. Ma no, è una cagata davvero. È interessante come questa spiegazione come in questa spiegazione si evinca che c'è una vittoria e quindi in questo caso un duello, e quindi in questo caso potrebbe essere anche peggio un cacciatore e una preda. Sì, è vero. Io in realtà pensavo più al fatto che stranamente viene viene passato la relazione umana, passa da essere una relazione a essere successo perdita. Anche. In parte tu mi avevi illuminato dicendo che sembra un duello, sì. E quindi poteva quasi sembrare in realtà che ci sia una parità, perché in un duello, se le persone sono uguali, le persone che confliggono teoricamente dovrebbero essere nelle stesse condizioni, con le stesse armi. Ma poi c'è la vittoria e la perdita. Esatto, e quindi sembra quasi che tu debba conquistare qualcosa, e quindi sì, cioè la vittoria, conquisti, che magari non è una regione geografica, come spesso invece viene ricondotta la conquista della donna, però cioè effettivamente questa cosa del hai successo se hai una donna, o se la donna ti dice di sì, magari esatto, un pochino cambiarlo effettivamente. Motivi per ragionare, zona rossa è anche questo. È anche vi questo? Lasciamo con questi ragionamenti. Esatto. Per la prossima settimana sicuramente in compagnia di tutti e tutte voi. Esatto, la settimana prossima abbiamo già un tema che è l'ozio, abbiamo già una grafica che ci è stata mandata. Oh, ma non l'abbiamo più richiamato Fra. Madonna, sai. Zona rossa si dimentica di chiamare la gente, che casino. Che bordello, quindi volevamo finire a un certo punto, ragazzi, alle 20:21 non andiamo più a non casa. Non finiremo qua. Più. Ma troppa gente da chiamare, troppa gente. Perché non passiamo un po' di gente alle ribelli? Diciamo, ribelli. Chiamate voi, non ce la facciamo a chiamare tutti. Chissà se ancora le poste. Lì le poste infreddolite. Se ancora le poste rido male fino a domani, esatto. Comunque Dai, rispondi. No, non può rispondi. Essere ancora le poste. Comunque ci siamo presi un 2 di picca anche noi dalla Chiara, che ci ha detto sono l'unica che vi ascolta. Ed è vero. Ed è vero. Anche da Gioia pochissimo. Che non ha risposto. Anche da Andrea Stide che non ha risposto. Noi viviamo di 2 di picca. È vero. Effettivamente siamo Ehi, sei ancora alle poste? Hai finito? No, ma non è vero, ma era tutta una finta. Ma era tutta una finta per tenerti alla fine, perché la parte forte arriva alla fine. Dulcis in fingus. Comunque dovete sapere che ho appena fatto gli auguri a Gioia, perché non l'avete detto voi. Ma non è vero, bravo. Questo è molto zona rossa. Siamo un servizio pubblico, vabbè, ma dici. Manderò in loop questa parte 5 esatto. volte. Esatto, ma sei riuscito quindi a mandare sto pacco o no? Sì, veramente proprio in il calcio d'angolo. Hanno chiuso le porte dietro di me. Ma veramente? Una cosa terribile. E quelli che venivano dopo di te, scusami, cosa hanno fatto? Andati a casa mestamente? Sì, Guglielmo. Tutti a casa allegramente. Magari fanno le tende. Ore di attesa e pioggia e freddo e nessun servizio bar nel frattempo. Che è la cosa più orribile e orrenda del mondo. Va così. Ma a questo punto, che sei da solo, noi possiamo farti la domanda. E qui chiudiamo il grandissimo cerchio. Qual è stato chiudiamo il 2 di picche peggiore, no, non il peggiore, quello che ti ricordi di più, il più strano. Guarda, il più assurdo, quello che stavate per darmi voi due se non mi avessi chiamato. Ma lì era bellissimo, sarei stato un due di picco. Lì era una prova per te, lì era una prova per te, che hai avuto fiducia e alla fine sei stato premiato, hai visto? Ti abbiamo, certo, dato, ho ascoltato ogni singolo minuto delle vostre sbarioni, che e palle, delle musica, esatto, molto bella ma molto pesante. Pesante e pesante, c'è stato detto, c'è stato detto, c'è stato detto. Dai, fuori questo di picche, raccontaci. Due di picche? Oddio. Ma valgono, oh, anche, valgono anche quelli professionali, politici, esatto, emotivi, professionali, quanti ne vuoi. Espulso dal movimento di tutta Italia, quindi... Ma come? Ma non è vero? Ma ce ne sei andato tu dicendo no, siete una mamma snada di idioti, hai detto. No, non è vero, sto scherzando. Non lo so, sinceramente. Due di picche... Dai, non c'è mai stata eclatanti, no. No, però non quello che ti è capitato, quello che è successo, che proprio tu eri lì che ci speravi, sì, dai, ce la faccio, invece no. Ho capito, ma non è così interessante. Vabbè, te lo stiamo chiedendo, zona rossa, non è che diciamo rossa, cose belle, noi diciamo le cose, rossa, appunto, ragazzi. Stai entrando nell'essenza. Ma ce lo vabbè, classica situazione discotecara, io sono uno di quelli che proprio ci va con i piedi di piombo, quindi cioè, prima di provarci con qualcuno dice ok, capiamo come si chiama, vediamo se la rivedo, decima volta che ci becchiamo in sto locale, sguardi, mica sguardi, ti sfiori, non ti sfiori, quindi dici vabbè, ok, cioè nel senso i segnali bene o male ci sono, ok, forse ci possiamo essere, potrei esserci. A un certo punto io faccio semplicemente la mossa del ubriacarmi malissimo. Beh, una mossa, prendere coraggio, effetto sorpresa, prendere coraggio, andare da lei e dirle ciao, ma hai voglia di parlare assieme? Lei mi fa no. E io me ne vado via tristissimo, no, dopo mesi di continue frecciatine, occhiatine, cose, cioè proprio così, no, basta. Ma no, sai cos'è il problema? Che vediamo, e sono andato via. No e no, a questo no, punto, no. Però a questo punto la cosa, la domanda ci rimane. Allora, sei tu che hai sognato tutto. Lei magari sì, era stramica. No. O forse era no, e magari lei voleva dirti hai una giacca molto bella, cazzo ne so, cioè, però capito, il chiodo che ti rimane, dici, ma perché? Forse ero troppo ubriaco, stai dicendo questo. Potrebbe essere una spiegazione. Questa è un'ottima spiegazione, ma sono anche i film di cui parlava Stefano. Potrebbe anche spiegare il fatto che lei poi è andata via con, penso, il fidanzato. Anche quello è quella, la proprietà privata non la sindacchiamo, perché sappiamo anche quel dibattito lì. Ma come non sindacchiamo la proprietà privata? È proprio lì che dovremmo andare a sindacare. Dovremmo fare una puntata ad hoc. Esatto, vabbè, faremo qualcosa. Voglia di stare con il fidanzato, quello che era. Vabbè, ma poi no, e siamo fermati lì. Il nostro diritto è chiederci perché no, ma ce lo chiederemo a noi stessi. E ci daremo anche delle risposte. Esatto. Va bene. Grazie mille, Francesco, ben venuto e finiamo con te. Può darsi che questa cosa potrebbe diventare un'abitudine, soprattutto queste qua. Ma la settimana prossima facciamo un'anticipazione sulla puntata, esatto, adesso. La puntata che vogliamo dedicare all'ozio. Esatto. All'ozio o allo zio? Allo zio. Sì, è una cosa mistica, è misticanza come l'insalata. Francesco, riceverai un link Zoom e da lì mettiti comodo, perché diventerai ufficialmente speaker di Zona Rossa. Dai. Ma non avevamo deciso di boicottare Zoom, tutte quelle cose. Zoom, infatti, Jitsi, scusa. Oh, ma come cazzo ti pare? Anche Skype, qualsiasi anche cosa. Skype. Ma sì, dai. Sì, comunque hai ragione. Zoom MSN. MSN, mica che bello. Aspetta, però, settimana prossima che giorno è? È il mercoledì. Ma il numero, il numero, il 15, diciamo subito, se non sbaglio. E infatti, no? Questo, no. No, di più, 16-17. 16. Lo dici perché lo sai? 16. Non posso. 16. Ah no, il mercoledì devi tenerlo libero. Pezzo di cane. Sarò ancora festeggiando probabilmente. Attenzione, che cosa? Scusa. È uscita del libro. Ma è il weekend! Già che si festeggia 5 giorni. Quanto... Certo, non ti capita, certo, di fare 5 giorni di festa? Cosa stai schiacciando? Cosa stai facendo? Francesco, ti prego. Che rumori. Cos'è sta roba, raga? Finirà così la puntata. No, lo richiamo. Cosa stava facendo? Io ci posso credere che non c'è niente di normale in questo programma, ragazzi. Non ci posso credere. Esci dalle poste, ti fai un paio di bicchieri. Cosa è successo? Non lo so, ha iniziato a schiacciare i tasti a casa. Si sentiva tipo una persona che pigiava tasti. Sentite il podcast perché è bellissimo. Figa. Ma vedi che là c'è quello che non va. Ma no, mi sto facendo la sigaretta. Sto facendo la sigaretta, giusto. Ma col telefono come base, vabbè, va bene così, dai. Col telefono. Esatto, col telefono. No, non quella sigaretta, non so di cosa stai parlando. Va bene, nemmeno io. Non nego e non confermo. Va benissimo, allora ascolta Francesco. Facci sapere se siamo degni di avere la tua presenza qua a Zona Rossa mercoledì. E secondo me sì, succederà questa cosa. Non sarà mercoledì, ma sarà giovedì o venerdì. Non ti garantisco in che condizioni... Guarda, dovresti vedere come entra Guglielmo in radio ogni tanto. Tra l'altro. E tra l'altro abbiamo già chiamato due volte che rubriaco. La terza volta sarà una novità. Dai, bene che così. Vabbè, è perso il premio di consolazione dopo aver passato decisamente troppo tempo della mia vita, delle vite, delle persone in coda ad aspettare il niente. Minchia, tu sei la versione moderna di Godot praticamente. Tu hai aspettato tutto il giorno qualcosa che non sai se è mai arrivato. Ti chiederò di fare le code per me. La prima volta che devo andare in posta a fare qualcosa ti pago per stare in posta in coda al posto mio. Sì, c'è uno strano gusto masochistico dietro. Quello sì, sempre può essere. Sì, sì, è una metafora delle nostre vite in questo secolo post. Situazione sentimentale, coda alle poste. Bravo, Madonna, ma intelligente sto ragazzo. Si vede che ha fatto comunicazione. Ascolta, ma se noi dovessimo tirare su una macchina che va a salvare Maya a Los Santos, tu ci sei? Carichiamo su anche te. Dai. Madonna. A voglia. Mi viene in mente una diretta in movimento della radio Zona Rossa giù a prendere Maya. L'hai detto. Madonna, ragazzi, l'idea per potremmo me. Non tornare qui. Diventa un road movie a un certo punto. Sì, io filmerò anche, quindi figurati. Dai, facciamo un film radiofonico. Una roba... Io metto la macchina, se vuoi. L'ha detto. Raga. Cercavamo la macchina stasera. Sale la pressione. Maya, se stai ascoltando, preparati. Abbi paura, soprattutto. Sette posti. Madonna, scendiamo in truppa proprio, minchia. Finirà malissimo. Poi tiriamo su persone... Scendiamo io e Lorenzo, ci fermiamo all'autogrill, non torniamo più alla civiltà. Facciamo diretto da lì. A Rocco Bilancio. Assumere alla pubblicità progresso, no? Abbandona i tuoi figli all'autogrill. Noi siamo i figli. Abbandona i tuoi radiofonici all'autogrill. Esatto. E lascia lì a Rocco Bilancio. Ronco Bilancio. Finiamoci a Rocco Bilancio una volta. Vediamo, perché cazzo, c'è sempre coda a Rocco Bilancio. Va bene, dai, finiamo questo programma noi. Andiamo a casa. Francesco, grazie. Ciao caro. Grazie a voi. Grazie, scusa per l'attesa. Scusaci davvero anche un po' per le poste. Adesso siamo stati noi, l'abbiamo detto alla posta. Spostate fate qualsiasi cosa, ma De Bellis non deve fare nulla, non deve uscire vivo. Puoi scegliere l'ultima canzone di Paranoia che Lorenzo ha da servire, se vuoi. Intanto sono arrivati dei messaggi che ci dicono che siamo l'archetipo della volpe e l'uva. Che amarezza. Ma veramente? Non lo so. E vanno a mangiare. Sono scioccato. Allora, dai. Fra, ti do le ultime scelte. Puoi sceglierne una, perché poi basta. Sono Dolls, Polifoni. Bello. Bello. Oppure? Oh. Aspetta, perché Exodus from the Underground, che non è stata selezionata. Bella. E Show Me Yo, interessante. Allora, considerando la mia bassissima simpatia verso i giapponesi... Immaginiamo. Ma come? Non capisco, ma per l'imperatore... Io dico bassissima simpatia per i giapponesi... È quella questione dei cinesi in fiore. Ma grandissima invece simpatia per il mondo balcanico... Per il mondo balcanico... Attenzione... Dirò Exodus from the Underground... Perché è il titolo di un grandissimo film... Che lancio che ha fatto! Mamma mia, ma quanta cultura c'ha sto ragazzo, madonna... Grazie Francesco... Allora, in macchina saremo io, te, Lorenzo e la tua cultura... La radio e Maya... Al ritorno, ma Maya solo al ritorno, però, perché se no all'andata non ci sta... La cultura la lasciamo all'autogrill a un certo punto... Fantastico... Giusto. Va bene. Parlattiamo con delle sigarette. Esatto, no, assolutamente. Scadenti. Fatte però, col telefono. Del caffè amaro, orribile. Quelle. Dai. Neanche lo zucchero. Esatto. Solo tristezza e fastidio. Ciao Francesco, grazie va mille. Bene. Ciao. Bacioni. Ciao. Zona Rossa si conclude così. Ale, che fatica. Ma neanche tanto, dai, neanche tanto, è stato bello. È stato bellissimo. Sì, grazie a tutti e tutte, ascoltate Radio ZM, supportate le radio libere. Yeah, l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo e basta, le comunità resistenti ogni tanto. Ricordiamo gli appuntamenti della settimana con Up Talk. Esattamente. Domani. Domani sera, minchia, tanto puntata della Madonna e Ice One. Porco Dio. Da adesso dobbiamo mandare pillole di ecologia. Meno male. Il suo collegamento europeo, extraeuropeo. Il Vate, siamo già in piedi. Abbiamo detto Vate, siamo in piedi. Esattamente. E per to-do list, tutti gli eventi della settimana li trovate lì. C'è il post su pagina Facebook. Mi raccomando, Cocchi con le storie Instagram, sempre sul pezzo. Buona serata. Ciao. Got to go because something's on my mind. and it won't get better, no matter how hard I try. Cause something on my mind, and it won't get better.